musica nel momento in cui la mandavano all'ospedale, facevano una puntura per il calmante, cose, e poi la rimandavano a casa. E il giorno siamo stati tre ore, signora si deve calmare, quella una volta gran calma, arriva la dottoressa della guardia medica, brutta come la morte, e gli fa: signora, qual è il problema? Il problema è che io tutte le mattine, dalle 9 di mattina sino alle 10:30 di sera, venga che gliela faccio sentire anche adesso, lo sente il rumore, lo sente, sì che lo sente, e che problema c'è? Si cambia a casa, si gira chi se ne fa, e forse si cambia di connotati, che fea che li trovi. Quello è bellissimo, no, se cambi casa. Mi avrei detto, io che vado ad abitare da lì, no, e lei venga qui ad abitare nella mia, ma guarda un po' quella gente come strana. Cioè, noi siamo stati tre ore a convincere, a tranquillizzarla, è venuta la dottoressa e ha fatto una cagata. Cioè, l'ha fatta di nuovo. Tanto è vero che poi, dopo che mi ha detto questo, è andata in cucina, ha preso il coltello, ci siamo buttati io e un carabiniere sopra, se no si sarebbe suicidata. Si stava ammazzando con qualcuno della cucina. E cavolo, figurati poverina che punto è arrivata, perché poi quello che ti colpisce è la psiche proprio della persona, cioè ti porta a non ragionare più. E poveraccia, voglio vedere io chiunque sano di mente che non abbia nessun disturbo, quando stai dalla mattina sino a notte in entrata con quella musica sempre martellante dentro casa tua, cioè, ma io dico una cosa, ma non esiste proprio, mi avresti strappato dal muro della corrente di quel cavolo di cose, sicuramente magari poi arrivava dalla palestra con la musica. Sì, con la palestra che c'è messo su quella lì. E lei ha detto che ha provato a disionizzare il marito, tutto quanto, non c'è verso, vibra tutto. Io guarda, l'ho sentita, Giuseppe, era una cosa martellante, a me la musica piace, ma quella non era l'identità. I carabinieri, quando sono arrivati, la prima cosa che ha fatto è detto: vai a fare spegnere subito la musica, che sta facendo malvenire e mal di testa anche a me questa musica, figurati di averla tutto il giorno, c'ha ragione la signora. Dice: immaginati com'è, me l'hanno fatta spegnere, però poi non li fa nulla, perché ha l'autorizzazione per la palestra, tutto quanto, non li va di nulla. Lo so Gianni, però c'è un sistema per insonorizzare bene quella palestra, ed è un sistema infallibile quello, cioè la insonorizza proprio al 100%. Ma anche un colpo di bazooka, guarda, e il gioco è bello che fatto, bella insonorizzata e usata per giunta. Comunque questa cosa ha preso un esaurimento forte, un esaurimento, il marito ha detto che era una cosa insopportabile anche per lui, però dice: io bene o male, vado in palestra, vado a lavorare, quindi sono occupato, invece lei è sempre dentro casa, capito? Quindi lei si sopporta tutto il giorno questo capo di musica, alla fine l'ha fatto uscire in testa, io prima di tutto pensavo che fosse un nervosismo, invece poi si dà proprio di capo. Gianni, quello è tipo il peggio di una tortura cinese, quella storia lì. Una cosa martellante, poi bisogna... Deve essere che aveva nessun di musica, capito? Questa cosa me la ricorderò sempre, perché mi ha fatto capire che tante volte i dottori valgono molto meno di chi lo fa per volontariato le cose. Tu tre ore cercando di calmarla, di convincerla, l'abbiamo portata proprio a uno stato sereno. Se arriva lì ce la dice già quasi in casa: e forse si cambia di connotati, che fea che li trovi. Non sono manco uscite che può fare una dottoressa, perché se quello che trovi ti fa fare come sei salita per le scale, te le fa fare in licenza, calci nel sedere, cavolo, ci mancherebbe altro. E mio papà, tutto ok, il sangue com'è? Terminata la cosa, il rubinetto è chiuso? No, mi si è coperta. Come sono sempre soffiando il naso, mi si deve essere Piccolino. solo che strano, però mi pare molto strano. Eppure tutto a posto, qui c'è AMFM ed è messo nel verso giusto. Attenzione sul 5, ecco. Oh, per Paolo, ho acceso a lui, ho fischiato dentro il mic e mi ha lampeggiato lo schermo della televisione. E spento, riacceso. Schermo della televisione? K. Eia. Come c'hai tu la televisione? Quella grande in cucina, fina. E tu sei dentro quella stanzetta e fa così? Cappa. Un attimino, come sto uscendo? Cappa. Che è già. Ma la radio com'è? Mi hanno detto che fa schifo la radio. Fa schifo? No, schifo no. Fa schifissimo, Simo. Quindi spegne lo schermo? Sì. Si spegne e poi si riattiva. Oh Giuseppe, dimmi se va meglio così. Sì, così si è salito un po' di tono, decisamente. Sì, vabbè, io non la sto copiando così, perché ce la volevo fatta così, ma l'hanno fatta cambiare, invece va meglio così, secondo me. Sì, anche se rimane un po' tipo la parte variano, quello delle cose di Monte Cristo, quello che spariva sempre in cantina, però diciamo che così è abbastanza comprensiva. Però senza attaccare lui, io adesso vado l'importante, parlo, faccio tutto quello che voglio ed è qui e tutto grappa. Ma cosa c'è? Non c'è il 7 acceso? Cap. Come normale, e se vado a spegnere anche le altre? Oh no, sono la tua. Perché per un attimo mi ero reso conto che ho staccato anche la spina. A casa non disturba niente, per fare gravità. Niente. La dipende già in che posizione è messa la televisione. E anche a me che oggi così pioggia, no? A un metro di distanza non vuoi fare niente. Però dipende anche da come ho messo il filo e tutto quanto. Ma non lo fanno gli altri, però no. Se sei stata, c'è il televisore o no? No, il televisore in cucina, io sono nell'altra stanza. Cazzarola. E anche per me è così, io sono fuori. Adesso voglio fare un'altra cosa bella. Guardate un attimino. Cappa. Non ci avevo mai notato però che desse questo disturbo qui. Stato? Come per barba? Non ho mai notato. No, mai notato per barba. Sia la Sardegna davanti. Attento Poloni, ascolti Italia, che Poloni, ascolti Italia, con l'alimentatore, mi piace quella lampadina e poi possiamo anche andare da Giuseppe se ne vuole. Ma perché sta in alto il rumore? No, negativo, il rumore è assente. Quanto l'anno ce l'ha? trompetta e l'alimentatore. Adesso sta con questa pecchia perché va con l'alimentatore che devo aggiustare e ne faccio quel lavoretto. Qualsiasi segnale sia che si può assomigliare, abbattiamolo subito. Gracias. ferma, il reddito più basso che ti trovi e so che andiamo ferma, uno stipendio lo teniamo da parte e con la pensione si rulla. Si rulla. Non è che per caso invece hanno preso un abbaglio, perché io non percepisco nessuna pensione. Qualche bicchiere in corpo, mi verrà. Non è la prima volta che succede. Ho preso, mi sa, un belga, e ma questo però bisogna... non sai mai che mi dica che cosa la vuoi. Ha chiuso bene le vite. Chi è che sta fischiando qui sotto? Oh, buddy! Avanti il Movela, su che andiamo, facciamo rollare sta ruotina oggi. Ho l'impressione che il buon Mario Manze stia accordando per far girare gli smitter stasera, confermo perché il rumore che ha detto 2 secondi fa l'amico io lo penso. ci spisco in pieno. Addirittura poco fa il primo segnale che ho percepito sembrava come un elicottero a bassa quota. Ora parla da molto lontano, da molto vicino. Signore cellulare di Novia, Giuseppe 5, la cosa è un po' più forte, qua non arriva niente. Mi arriva addirittura Santiago 3, però aumenta, ci sono attimi che aumenta e poi abbassa. E confermo in pieno, a me dei picchetti di 6, però no. Molte volte in Santiago 5, dai, poi ci sono quei disturbi, che vanno poi a scomparire pian pianino, ma è roba di pochi secondi. Cappa e poi cappa, riprendi Alex. Così approfitto dei saluti, dai un saluto a tutti i ragazzi che c'è nella ruota e andare una domenica di lusso, un tempo di merda perché c'è un bugio allucinante oggi, ma chissà che non esco stasera. Anda bene, Mera, beh, di cosa si racconta, di cosa si parlava, aveva appena acceso, adesso ho notato questa portante di colpo, sempre mettendola, ci ho detto, magari chi fa prendere un macco. E allora sono entrato a dirvelo, ma vabbè, strano che non ve ne siete accorti, forse perché lo schiaccia proprio di brutto, lo eliminavate di brutto. Comunque dai, continuate, già siamo qua. Cappale, bene. Tratto. E qualcuno vuole fare lo stupidino, ogni tanto si trovano le persone lì, Alex. Magari. Avanti Giuseppe, fai girare. Cappa qualche, il mondo è bello perché vario, noi accettiamo tutti e senza metterci nessun problema. Se vuole entrare l'amico e farsi una chiacchierata con noi, è sempre il benvenuto. Non ci sei all'ascolto, non ci sta assolutamente problema. Avanti Vela con niente, magari con il libretto della pensione. È già da un minuto buono che qui il QRM è sceso a zero e la portantina è, diciamo così, svalita nel nulla. Brava, va bene. Ho finito a fare la TV di bianco, arrivo subito. Approfitto a fare un minuto di bianco. K. Di positivo Vela, tutti bianco e poi versate il rosso. No, io no, non verso nel rosso e niente io. Su che andiamo con lo spumantino? No, bianche. Allora, vediamo un pochino se non riesco a capire come mai questa cosa sta innescando così. Però. Giornata per carità. Oh, qui sta con piovere, sta piovigginando, è leggera, leggera, leggera, però sta facendo. Dalle vostre coordinate, com'è? Si piovigina anche qua, Si piovigina alla grande, alla grande, alla grande. Alex? Come sto facendo adesso a guardare, comunque è tutto bagnato, sicuramente era più grande di prima. No, comunque adesso no, sono. Pari positiva, è anche normale, no? È la domenica che si può organizzare qualcosina, è giusto che piova. Se no che gusto c'è? Ragazzi. Vai che? Per una cosa di positivo c'è, che alla giostra non si può andare quando piove. Mi dispiace per loro. Cazzo, un casino che mi ha fatto la bambina ieri sera. E Giuseppe, ma tutti i bambini sono così, dai, più o meno, grosso modo sono tutti così, Ehi, capa, ho chiesto a quella lì, no, della biglietteria, quanto mi dava, se gliela lasciavo, e mi ha detto, se la tenga. Tiriosa, cazzo, non riuscivo a tenerla in nessuna maniera. Me ne sono sceso da quel coso, avevo un cappuccino, mamma mia! Beh, è normale che la ruota poi fa venire il capogiro. È normale, Giuseppe, è normalissimo. È solo che i bambini, vedi, non ne risentono di quelle cose. Che sono presi a gioco, magari, e non si fanno caso più di tanto. Cappa di positivo, l'amico falchetto. Cappa di positivo, mannaggia. E quella cosa ti sei appentato poi, Anto, ieri sera? No, non mi sono appentato perché al buio si lavora male, anche se accende la luce lavori male. Niente, oggi ne ho approfittato a scendere un po' al mare, farmi qualche bagnetto, pescare un po' di ricci, ho preso un polpettino e tira campana, qualche cosina abbiamo fatto oggi pure. Cappa di positivo, falchetto, va benissimo, la pasta asciutta ci viene fuori, l'insalata col polpettino, si può fare tranquillamente, quindi su che andiamo. Cappa, però ti posso garantire che pesce, non se ne vede neanche l'ombra. Si conferma al 100, e così, oramai anche il pesce sta andando via via e allontanandosi sempre di più dalla costa. Prima con la scusa dell'estate che è disturbato, pesce ne trovi poco e niente, adesso gente in acqua, motoscafi e tutte quelle cose lì non ce ne sono, a rompergli le scatole, però il pesce non c'è lo stesso. Vedi, io stamattina verso sarà stata l'una del mattino, l'una e un quarto, l'una e mezzo, mi sono messo in contatto con i pescatori, io, più o meno, e ho chiesto un po' come erano le previsioni del mare, no? Mi hanno detto che il mare era calmo, però pische, nuda, nada de nada, perché gli ho chiesto anche se c'era pesce, ho detto, lascia perdere, tutto morto. Cappa di positivo, fai che, mannaggia, bisogna, cosa vuoi che ti dica, dispiacciono certe cose, perché abituati, perlomeno, io mi ricordo quando ero ragazzo, non lo so, entravi, perlomeno io quando entravo sempre qualcosina e la tiravo fuori, adesso non c'è manco il coso di infilarti la bocca, perché è più la fatica che ti prendi tra benzina e prendere, che ne so, qualcosina che ti occorre giusto per cercare di farti la pescata, e poi per cosa? Per ritornartene con la coda in mezzo alle gambe, ma che vadano a fanculo tutti quanti, dai, scusando della frase, e niente, dai, avanti Alex, e per chi vuoi, e fai girare. Campa, già sono un giorno senza andare a pescare, mi sa che è quasi 2 anni adesso che non vado, l'ultima volta al molo lì, al molo industriale, a prendere dei tottani con qualcuno qua in zona, un amico che ci via anche lui, ma da un bel di anni non prendo più gana, mi è passata tutta la fantasia, prima ero più appassionato, pigliavo, ci buttavo un sacco di soldi in esca, che se dopo non avevo mai una riusa per uscita, invece di comprare all'estero. Chissà che magari nel bel tempo adesso, che arrivo al bel tempo, non mi riprenda la voglia. Ma vabbè, passo a vela se c'è vela in ascolto. Io ti voglio di solito. stare scaricando con questo Milk Fusion Script, non so se lo conoscete, una bomba in Harry Gandy. Va in mezz'ora neanche pure, dai, dai, in tre quarti d'ora ne scarica un film, incredibile. A confronto a altri programmi tipo, cosa ti posso dire, c'è quell'altro, quello che si chiama Mininova ma guarda un cazzo visto, no, c'è quest'altro, BitTorrent, ma è troppo lento, a confronto a questo è lentissimo, anche BitTorrent che è abbastanza usato per scaricare, ma non lo so, voi non comprendete i computer, sì. Cosa si attende per scaricare film? No, non sto usando più niente perché sono fermo un po' di tempo con questi film e quindi attualmente ho abbandonato già un bel po'. Chiaro. No, io con questo mio che mi sto trovando bene, scarica velocissimo. Guarda, sta scaricando adesso è a 100, 122, mi pare che rette e segnenti, ma molte volte scarica anche più velocemente, la vedi proprio la cosa in progressione andendo. E in totale quanto ci mette? Ma neanche mezz'ora. Pensa a una discografia di Gacuno, cosa ti posso prendere? Cioè, ho scaricato la discografia di Vasco Rossi, va poi su 10 minuti, una discografia, dentro beh, visual roba di 20 o 30 CD, una cosa allucinante, già scaricato poco veloce. Dipende dal momento, dai, anche qua ci sono dei momenti dove c'è un bel di gente connessa, allora tratta la scarica velocemente. Ci sono momenti che magari non va nessuno connesso e allora rallenta. Ma la discografia in che formato l'hai scaricata però? No, dopo lo devi zippare con WinRAR, no? No. Vabbè, ma sicuramente te la scaricata in GIF, io lo credo che ti carica già in flash. Capo. Ma tu considera già che sempre caricando in flash? Ma capo, mi viene di roba 31, non la macchina. Vabbè, secondo che cosa usi invece per caricare soltanto un album e un facilone, sicuramente quello c'è le cose in GIF, poi te lo fai tu come vuoi. Capo, lo devi zippare con WinRAR, non so se conosci quel programma, lo prende, gli dici dopo altri stesso lì nella cartella download e da poi te lo trasferisci dove vuoi tu, nella cartella tua di musica o di ti piace, se la puoi fare in un dischetto, già, è una cazzata quello. Capo? Capo, no, io usavo, te lo dico come scritto, se non magari sbaglio in inglese. Praticamente cos'è? Un programma che fa tutto lui. E allora? KK. No, vabbè, ne ho usato un altro, però ti devi scaricare, come ti si chiama, un altro motore di operativo, un'altra cosa ti devi scaricare. E ciò per dire la Ciabu, così ti dico come si chiama. Comunque con quest'altro browser riesci a scaricare con questo MP3, segnatelo. Già che tu caricheggia velocemente la musica, è una cosa allucinante, scaricando quel programma non ce n'è. Si chiama BIP MP3. BIP, una cosa del genere. Cazzo, hai visto quello lì come scarica? Però ci devi avere un motore di ricerca diverso, lo so così che andi a un momento come ti si chiama. Si chiama. Fanculo, ma non mi viene. Firefox, eccolo qua, quello lì. Firefox. Quello lì, ci devi avere quel motore di ricerca, se no non ti apre il download. No, io ce l'ho già perché Windows 7 te lo metto incluso quel motore di ricerca. No, adesso non la sto usando più, ma comunque quello che c'è forte, l'MP3 semplicemente è una saetta. Pure tu c'hai 7, anche io ce l'ho, strano che non me lo mette direttamente, pure io, si piratato ne avevo cavato perché si intrallata in ogni cosa, specialmente quando usi Mirky non va bene, che ti incasina quanto c'è, quando stai scaricando. Ma appunto quello 7 puoi escluderlo e metterlo, lo so essere dell'ultima generazione, perché l'ho comprato quando settimana scorsa, questo computer, un coso, non portatile, c'ha lo schermo di occhi e funziona, cammina così, questo qua, quello bagato laggiù bagato, lascia perdere, non ti dico quanto va. No, è troppo freddo, tanto che avvelo, non uso niente, a voce a bici. Si è sparito del radio, Alessandro. Come è sparito del radio? Scesa, e cosa è successo in occhio? Non lo so, non stavo, ti ho sentito passo passo a un certo punto. Giuseppe non vedeva se sì. Sicuramente perché anche uno con qualche segnalone prende importanza. No, confermo quello che ha detto Vela, a un certo punto si è mancato il radio, si è uscito proprio alla fine delle parole. Sì, K, sono qua. È giusto il tempo di rispondere. Mi sono assentato proprio un secondo per rispondere al telefono. Comunque ho sentito anche Alex che è andato piano piano scomparendo del radio. Confermo. Io infatti da cucina mi sono girato, credevo che o si fosse spento l'apparato qui, perché non sentivo più a nessuno. Anzi, a dire la verità non si sentiva manco niente di quel REM, proprio silenzio assoluto. Quello che sto dicendo, la mia freccia rimaneva a 9:20 e non sentiva più niente. Adesso ha controllato, ti sì. Capo, stavo controllando qua, ma di qua è tutto a posto, a meno che non è scoppiato qualche cosa. No, ma non credo, sicuramente c'era qualcuno con qualche kilowatt tirando. Allora era qualche volta in povera. Si è appaccata. Oia, vedi Iubini. Che va a vedere, a un certo punto si è scomparso, e vedevo la freccia sui 9:20, e ho detto, beh, pensavo che ti si era... E non si è mancato in via batteria magari, perché mi sembra di aver sentito anche io un rumore tic-tac, come staccato, cosa del genere. Chissà che non si sta mancando la batteria del microfono, lasciavo di segnare giù qualche altra. A me è bello tutto regolare un microfono, comunque, non è mancato come troppo già. Oh, a fischia quando manca, allora andava bene, cambio. Andava bene, vero. Non dico anche di stazionaria, non sta segnando niente, esce così, da fa. Niente. No, hai modulato, no? Stavi modulando, poi tutto un tratto si è sparito e si è uscito proprio nella fase finale, diciamo, del discorso, Alex. Però c'era la portante era 9:20 piena, però no, mutismo proprio non si sentiva neanche il guerrea. Tappa, che si erano in kilowatt sotto. E beh, senz'altro, Ale, qualcuno li sta ripetendo. Potrebbe essere qualche prova che sta facendo Mario, attenzione, io quello non lo escludo. Becchese. Becchese e trachese, entrisi. Il tecnico ha terminato il titolato. L'hai pagato? Cappa, cambiate la lampadina, ricaricate tutte. Andà bene tutto. Come l'hai chiuso perché... Non mi c'è silicone per attaccare la lampadina sullo smittere, sullo strumento. Cappa, salutoni Gianni doppio rupo. Ciao Falchetto, ben sentito anche a te, ben sentito tutti gli amici, anche Alessandro. Alessandro, ma ieri qualcosa ti è successo, perché ti ho visto fermo, via Sussis con la macchina, notte tarda, e c'era gente, attorno, cosa è successo? No, non ero io. deteriorano. Ma chi l'aveva detto? Non sei sicuro? Ma dopo che è successo questa storia? Vedi nella macchina mia, che te c'è per andare a vedere? No, aspetta, ti fermo. No, forse non è notte tarda, forse era presto. Siamo passati con Pierpaolo, infatti ho detto, ma Isa è la macchina di Alessandro, non sa se ci sia che cosa. Perché ho visto uno che stava scrivendo, ho pensato a un tamponamento, qualche cosa del genere. No, cattivo. Anche perché, vabbè, io a me, alle 9 ero già qua, quindi non mi ricordo di essere... Vabbè che di fronte al negozio c'è sempre il montone di clienti che mi conosci, quindi se mi hanno trovato scendendo dalla macchina, va vedendo una cosa all'altra, ma non mi risulta però. Anda bene, ma sempre facendo sei già. Sempre in barrende. Ma di dai, già lo so che non rompi niente. No, io guarda, se dove passo arrivo, sono fatto così, conosco i miei limiti, dove non arrivo più c'è il secondo tecnico. Raga. Non che metto la lampadina che si è fulminata l'alimentatore, tutto io, meno male che c'è tutto di riserva, mi si è fulminata e ci vedo giambato. La lampadina dell'apparecchio? No, per l'alimentatore, degli strumenti dell'alimentatore, non so se tu ce l'abbia strumenti, io ce l'ho strumenti. Ho cambiato la lampadina. Ma cosa strumenti? Chissà, ma appena va la ipina va a attaccare la corrente. Dai. Adesso con la 50 ti devi prendere 135 euro e un alimentatore come ti si tocca. Che già sono una diana da comprare a me, e mai vado. Ma uno di questi giorni già mi decido di andare, ma lo prendo là. Se vuoi il mio, guarda, mi deve arrivare a giorni quello da 150, te lo vedo. E tanto voi. Nuovo mi deve arrivare, che vuoi? Sono 135 più lo spese spedizione, 145, 147 euro, come pago io. Kappa, allora vieni, no, dai, un po', se mi rompo un parete. A me mi sta arrivando già, l'ho già ordinato, solo che poi magari ne ordino un altro, per me, capito? Quando tu me lo paghi ne ordino un altro, però se mi dici che lo vuoi tu non ha problema, quando arriva te lo do confezionato. Vabbè, usalo, non c'è problema, non è che sono problemi. E beh, per quando li vuoi questi soldi, che cerco di recuperare. Penso che mi arrivi a giù, penso che mi arrivi a giù, o lunedì o martedì penso. Beh, dai, cerco di fare in maniera di recuperare. Quant'è 140 euro? No, la macchina, è scontata. Scontate che io cazzo li pago, la messa. Sconta, tu io cazzo per non farmi di meglio, se dico, lo sconta. Kappa, non è che c'è un problema, però, vabbè, ma così costa così comprata. Ascolta, mi... cosa devo scrivere nel computer che ti do conosciuta? Ah, non ti ridi, allora vai, tecnocomunicazioni, e poi cerca alimentatore 55 ampere. Ok, ciao, vedi. E non ti rubi di tu direttamente, a me non mi interessa, non ci devo guadagnare mai. Non lo fai, se non puoi farti un favore, ma visto che non ti fidi. No, in che senso non mi fido? Poi posso lo vedere com'era, no? Guarda, bene, c'ha gli strumenti, c'ha tutto, c'ha un bel imprese, puoi attaccare 1000 muri, c'ha prese da 3 volte, da 9, da cosa, poi non vogliamo tutto monopolizzare, dai, avanti Giuseppe, fai girare, scusate se mi sono messo in mezzo, dai, io sono sempre buon tempone. Tappali positivo, non ci sta problema, se la riprenda fai che. Guarda Giuseppe, stai pescando positivo, riprenditela. Cabra. cosa ti volevo dire per pace, vai, vai, facciamo prima che voglio provare questo apparecchio a casa di Giuseppe. Tutti e due li voglio provare. Ma se voglio vedere se dipende da me o che cosa è. Ma sicuramente è l'apparecchio che non si adatta. Adesso non ho voglia di stare a provare, a smontare, a fare, fare, perché devo staccare un po' di roba per attaccare lì. Però ce lo farò, dai, un giorno o l'altro lo faccio. Si abbiglia le luci, sennò assicuro sì, così. Si appaga, appaga. Perfetto. Ho letto già. Lo porti qua, lo lasci qua e vedrai che non sa qua. Raga, raga. Vabbè, vabbè, vabbè. Non c'è problema, vediamo, vediamo, vediamo. Sgancia. Sicuro, sgancia. Sgancio, cazzo, devo pure sganciare. E io a me lo ho appena regalato questo qui, se lo vendo, cosa ti volevo dire, devo provare anche a casa di Giuseppe a vedere se riusciamo a farlo uscire ancora più bene, già esce bene, facciamo ancora uscire meglio. Ma l'inventazione ci vuole. Eh beh, infatti ci da prendere un switch. Poi ce ne sono altri, quelli rossi, che io non conosco, non so come vadano, non so se sono a MOSFET o meno, perché se no ti avrei già fatto la festa. Cavalier Roger, alimentatore switch di Maxi 505 UCE, 55 ampere. Lungo, bello, grande, spazioso. Due strumenti belli grandi, in più c'ha l'H4CD sigari, ci può attaccare le 12 volts, c'è la 13.8, c'ha la 3 volts, se vuoi attaccare per dire qualche microfono amplificato li metti in filo, lo attacchi direttamente lì, invece cambia le batterie, insomma tante cose si possono fare. L'attacco da un accendisigari, vi giuro. Adesso sotto c'è un amplificatore a ZG, ce ne ho due uguali, li sto prendendo se interessa qualcuno, di Zizu. Ho capito Alessandro. C'ho io due di quei AZG, amplificatore di segnali di qua, uguali. Se interessa qualcuno li sto prendendo. Quale 150 c'hai? Zappa di Roger. Per la ZG preferisco il 747, ne ho uno rotto di quelli, non lo so, funziona, però funziona male, sicuramente sarà partito qualche cosettina dentro, perché fu di poco, non mi dia a me che non comprendo nulla, c'era cosa che non volevo, vabbè, anche quello lì lo sto dando. Sì, sarà da regolare, basta, tu l'avrai scacciabittato sicuramente, come tu solito fai, e sarà da regolare. No, gli avevo dato troppo ingresso già, troppo ingresso. Tu gli hai dato l'ingresso? Guarda che quelli c'erano da 5 a 10, quindi... Io l'avevo attaccato quelle presidenti, te lo ricordi? Dalla volta mi hanno detto, guarda, stai uscendo male, sicuramente la giumana di fascia 2 che cosa dentro. 5. Cosa? Sì, fino a 5 watt arriva al 1150, buonasera a tutti. Qual è 5-10? Tipo. 747 sì, è 5-10, però il 150 non sono sicuro. 5 watt. Preghi su chi viene ballato, non avrà rotto la resistenza, le entrate basse. Si va sardo perché gli dava troppo. Lui non ha detto che il B-154 fosse la più, ha detto che il 747. Oh, cappa di Roger, te ne ho due di 747, e quello lì è imballato in chissà maniera, per quel motivo lì. 747, 5-10 watt per l'ingresso, già. Quindi, non è quello sicuramente. Ma Giuseppe, li prendi. Eccomi qua. Ascolta, ma l'alimentatore che ti sta arrivando, Gianni, anche l'attacco accendi sigari. K. K, così ti puoi anche accendere la sigaretta lì in camera. No, non lo uso per quello, lo uso per il portatile. Quello lì mi serve il portatile su un altro canale e quindi ascolto da una parte e parlo dall'altra. Bene, bene, quando divento ricco uno di questi anni me lo prendo anch'io già. Sì, bisogna diventare ricco. Quanto cosa? 135 mi pare. Calcola i passi che ho messo io, è vero, e niente, direi che basta così. Se a Sassari dicono basta accusi. Invece di spenderti gli altri soldi, di conservarli, ti compravi quello direttamente. Lo so, però per adesso, guarda, vado un bene così, va troppo bene, l'apparecchiatura, il Cicito Mondo che ho qui a fianco, me le alimenta tutte e due, il Boeing viene alimentato da questo che ha, mi pare, 13 o 14 ampere, e va bene. L'unica cosa che mi dà un po' da pensare è quei colpi che mi ha dato poco fa con lo schermo, tutto lì. E vabbè, poco male, dai. Te ne sente che non si lamentano, se si lamentano tu ti prendi, ti regoli le conseguenze. E beh, se si si lamentano bisogna non attaccarlo, oppure ha qualche difetto questa storia qui, perché io l'ho preso proprio sentendo qui in radio che questo 747 non disturba nessuno, a nessuno. A me non mi ha mai dato problemi, nessun tipo. Pagava, vediamo bene. Adesso come ti arrivo il segnale più basso di poco fa che ero con lo stress enorme. Guarda, mi stai facendo una domanda da 100 milioni di dollari, perché effettivamente poco fa ero con l'altro apparato, adesso sono io con l'S9. Appaga. Comunque non ci sta problema, dai, 9.20 ti posso dare in questo passaggio. Grazie Giuseppe, avanti Alessandro, a te come ti arrivo Alessandro? Mi stai facendo tutto in occhi, tu immaginati. Mi sto facendo gli occhi qua, tutte queste radio che ci sono in questo posto. Cioè, guarda questo qua micidiale, bellissimo. Intec M550 Power. Dunque deve essere bello quello. Cosa, Popoli? 50 Power, questo qua è. Ma quello che hai tu, super da radio, è grande come apparecchio. Riesci a vederlo, darlo in primo piano. Beh, insomma, lo Smither di lusso, sì, va bene, bello, un bel apparecchio ai popoli. Intec 550 Power, questo qua, pronto. Tasto rosso, tasto bianco, tasto azzurro, così. Sì, il tasto rosso nel coso, dai, nel mouse, mettimi da meno mouse, nel tuo parlante. Sì, ma non è grande, adesso è piccolo lì come un parecchio. Cosa c'era? Il microfono. Sì, capo, non si sia, è un microfono. Aspetta, il prezzo 119, chi così? Capo, se ti dice 550 Power è questo qua. Nel brontolino del baracchino vedi che c'è un pulsante rosso, un pulsante bianco e l'altro azzurro, giusto? E capa è uguale, sì. Esce anche abbastanza bene. Sei così originale, non hai messo niente. Nulla. È tutto originale, aspetta che il microfono, l'antenna e vamos. Questo qua non è molto grande, è tipo la misura di un Alan 48, una cosa del genere. Questo qua lo deve richiedere con la cosa, come si chiama, con la modifica di 400 canali. Si può fare, sì. Però già è poco, non è male. E ci avete sentito i suoi anni. Te la domanda non è già pronta, Alessandro. Buonasera. La domanda non è già pronta. E allora. Ma lo devi chiedere tu, però. Devi chiedere, però non ti farò pagare nulla, cara. Quanto fa? Io mi ricordo così, vero? Va, comprerò il prezzo, la modifica. Ma poi devi metterti in codice per andare sui canali alti, capito? Tutti gli altri canali. Tutto complicato. Non è complicato. Ma poi c'è anche la tele di cui già uno qui come se ti sia trattato. Che senso codici? Cosa ti difendi? Tutti questi tasti a cosa servono? È un tasto solo, quello rosso. Potevi spegnere, riaccendere, ci sono i codici. Per andare sui canali alti, bassi, alti, su quei canali. E lo devi tenere premuto, accendi e spegni, così. Non spegni. Schiacci, tieni premuto il tasto rosso, che è quello dell'eco, che fa funzionare anche l'eco. Non te lo riaccendere l'ampia. Tu per esempio vai fuori col tuo coso, giri, e fai un peso, codice 13, partiti, sono sui canali alti. Schiacci quello e si fa la riconferma, si schiaccia il tasto rosso, come fa l'ampeggiato, riconfermi il tasto rosso e via, c'è tutti i canali di su e tutti gli alti, tutto qua. Poco complicatino mi pare la cosa, ma più te lo vedello. Alessandro. Oh, dimmi. Scommetto che non ti sei accorto che ho cambiato apparecchio. Perché c'hai l'eco, sì, però. No, un pochettino è diversa la modulazione, rimane più chiara. Questa più chiara, più chiara, più chiara. Bravo. Vai a segnare come ti arrivo con questo. Beh, a fondo scala, quello con Ghillo, non si muovi dal più 30, proprio a fondo scala. Ti ha pagato, poi hai detto bisogna farli girare tutti. Bisogna farli girare, se no poi si imbarrano e non funzionano i più. Ma perché non ce li hai tutti quanti già predisposti a accenderli? Io li avevo attesi tutti quanti in una volta e farli scaldare, che almeno a basso volume. A volte già faccio così, sì, sono c'è già tutto il mobile predisposto, disposto, con gli apparati tutti quei mesi, tutto qua, tutto in ordine. Tra l'apparato e l'altro c'è il centrino fatto a mano, per non graffiarlo. Scaricando questo documentario non che fa veda di cose spaziali, degli extraterrestri, sa se è bello, che cose strane mi entusiasma già. Diventerai l'amico degli UFO. Ma dici che ti mangiano io capo, chissà se ci sia vero questa cosa. Dice che questa donna ha detto che l'hanno rapita ed è rimasta incinta di un fannato, questo bambino, guarda, sembra un extraterrestre davvero. Ma nel computer l'hai visto? No, l'ho visto in un programma televisivo. Io ho visto quel programma di Guido Cantante, adesso non mi ricordo chi è, e praticamente a questa l'hanno messa incinta, mi pare 14 o 15 volti. Dopo vengono e gliene prendono il feto, capito? Lo mettono dentro una ampolla di Izzy e si zirubosciano e fanno degli ibridi, dai, magari dai, se è vero vai tu. Quello che sembra un coniglio, gatto, sembra un extraterrestre bambino, e l'hanno messo anche al computer, era un feto comunque. Ma Sandro? Oh, dimmi. Troppo per buono, deve essere che ci ho fumato, eh. No, ma dite che sta di pafe, davvero l'hanno fatto questa storia. Gli hanno riscontrato una cosa dentro, nella testa, proprio vicino all'ipotesi. Mica è una specie di sondina, non gliela la possono neanche togliere perché toccando quei punti lì diventi pure mancanti. Ecco, gli hanno fatto l'attacco, gli hanno trovato questa roba qua dentro la testa, figurati. Ma è da orbizio? Ma so che conosco, vorrei sicuramente che così su che si rulla. Guarda, chi è? Giuseppe? Un attimo che mi stavo rullando un maninotto, arrivo fra 2 secondi, ce l'avevo giusto in orbita in cucina, K. Su che si rulla. Su chi andiamo ragazzi, si rulla la grande, altro giro, altra corsa, inserire il gettone e avanti banchetto, no. Ragazzino non toccare la corrente, attento. Falchetto! Falchetto l'ho detto 2 minuti di bianco, ma lui 2 minuti sono 2 ore. Cappa, date 2 minuti a me che sto terminando di rullarmi il paninotto, che ho una piccola interferenza tra un intercapedine e l'altra dello stomaco, cappa. Cappa, è positivo, faccio l'incubo, non sono. Cappa per va, io anche se mangio bene a pranzo sempre qualcosina ci devo mettere poi, perché non lo so, c'è questo bocchettino che si forma così, poi mi hanno detto che dall'alto si vede abbastanza bene, tipo proprio il buchetto dell'ozono. Ma lo sai cosa mi succede? Non dirmelo, no. E così è. Ma adesso mi sa che ricomperò. Oh, se proprio per dare una mano agli amici, guarda, non metterti problema, Era bravo Pierpaolo, che si addietta. No, ecco, tu sei scusa, ma mi hanno lasciato un triangolino e insomma alla fine mi viene un po' male, dai. E cappa Pierpa, e come dice qualcuno, più lo mandi giù? O la tigrotta, come sta sempre saltando, o se ti tira già magnatue da mi Pierpa. Qui c'è una bandiera nera. Cappa, arrivo fa frappi. Se non ti mangi niente, vada, buttimi pure io, da che cosa? Io mi provo. Io mi affacchetto. Io mi provo. Mira, come non ci dico. Mi provo. Vai a pescare. Cappa. Fecero venire un po' il panito e un po' con il riso mi ha giocato. Già, va bene, vado a fare la pasta. Invece non c'era nulla, ma non ce n'è più la ricettina, secondo me. Sono andato anch'io una volta a pescare con la canna, con Salvedio, Non toccava nulla, proprio una toccatina, sempre il verme attaccato rimaneva, non toccava. Paga, però non è più nulla, no? No, non, è, non era la ricettina, oggi si è recuperato a Stintino. Ma non vede nulla. Oh, Risba. Ma qua Stintino? Negativo. Devi andare più vicino, lo sai dove? C'è la torretta. La torretta, lì, dove sono le rosette bianche, per chi se pensara che se le rompe. E boh, allora vediamo la prossima. Non devi andare. Non si sa più dove andare, già. Non fai più nulla. Davvero, ancora, non è sempre in posti. C'è la torretta, le rocette bianche, c'è un po' di fondale, dico la verità, no? Perché io li pescavo e so che ci sono più di fondale, però prendi tutto spigole, saraghipelli, quelli bizzuti, prendi orate, poi gronghi, di tutto. La torretta è lì, fai a largo della torretta, prima ti fai sotto costa e poi te ne vai disposto un po' più a largo. C'è le becche di roba, futti bimbi. Ah, parogelo. E allora vediamo di pagoci proprio. Vediamo un po' se si conferma quello che dici. Polpi e seppia come le prendevo io. Sia di seppia che di polpi, ma seppia mandi, mi ha anche tolto il giubiliato. La paga, andava bene bene. E me ne ho in tempo. Che cosa? Mi sapete tottare? Sì, sì, ancora la vetrufi. Poi stanno in tana, non è questione di tempo, stanno in tana, se ne vedi a spagna. Quando non è tempo non escono per dire a girare di come escono di solito, se ne vanno a largo, però se c'erano le tane lì, rimangono. Io mi ricordo che quando le siepi le prendevo, poi mi giravo e c'era sempre l'altra, sempre in cuffia. Perché c'era sott'acqua? Sì. Ora bisogna che la pesca. Sto vendo sta già, bubu. Che ho vento? Ma non so più già. La normale va iniziare, invece è stata la luce. Palle. È proprio una palla. Sì, vabbè. Cosa si vuole fare? C'era anche il signor Alessandro. Oh, dimmi già. Se la riprendo, Alessandro, hai visto comunque l'alimentatore? Sì, capo, cazzo, è già bellino. Ma quello da 50 lo stai dicendo? È professionale, non è bellino, è quello che è un alimentatore professionale. C'ha praticamente l'attacco dietro. Che tu non vedi nemmeno scomparso. Se tu la vuoi a 13-18, la corretta la puoi mettere a 13-18 fissa, la puoi mettere regolata, ma ha tutte le possibilità di cosa. Posso smettere, grazie. Bianco. Comunque, un casino. È un casino in Germania, capito già? Ho trovato il 44, eh. Sono un po'. siamo 44, questo lo sto guardando, se c'è qualcuno che interessa. Mi raccolate qua. Chi? Cosa ti stavo dicendo? L'hai trovato? Non te l'avevo spedito, non te l'avevo già spedito. No, assolutamente no. Assolutamente no, caro Gianni, no. E qua è Sassari. Che te lo vanno a spedire, se che ragione che te lo vanno, che ti arrivava, io avevo capito così. E vabbè, tanto, bene o male, anche 140 già va bene, se lo sai usare bene, è di uso. E ora, tanto 140, ho diploma. Se ci vuole diploma, bisogna saper usare le sue cose, non è che sia una cosa difficilissima, però bisogna sapere come si fa, dire, le frequenze, le cose bisogna saperle. Ah, uno sì, vabbè, poi metti un vuoto tra la manopola e sali, non finisce mai. E sali e sali, invece quando sono le frequenze, vedeva 7000, 7500, 7003, sai più o meno dove parla. Ci confermo. Vabbè, però ci puoi fare, so. E così. Ma aspetta. No. Bene, va adesso, riprendi. No. Ma cosa era di Zelli già? Che non ho capito. Luca. Stavo andando al 140, se ti interessa, a te sta per me. Non mi piace, non mi piace come esce quel 140. Ma tutto quanto ti ne senti? Non mi va un bel cupa, ci ho provato pure a... Adesso a abbassare, no, l'ingresso. Nuda la fa, sempre così l'intendo. No. Questa non dico sia perfetta, ma è lì, No, ma poi sembra anche non tu. Allora io, a Claudio, a Franco, che sono vicini, quando braccio non li sento male, cuppi. E sicuramente allora siamo troppo vicini. Non so tu come lo senti già. E adesso non è che sia cuffo. E diciamo forse è troppo forte. Guarda, l'ho abbassato un po', ora un po' a metà il mic. Adesso va bene. Io non lo so già, non so come cacchio lo devo mettere. Comunque adesso ha migliorato, Quando tu lo metti troppo forte va a strappare, pompare. Adesso è perfetto, Ecco, ma è l'MC60 che spinge, capito? È l'MC60. Sto rientrando? Via Giuseppe. Poi dipende anche come lo usi l'MC60. Dici che non ci vuole la laurea, però l'MC60 se pare da troppo vicino ti fa strappare. Bisogna anche parlare lentamente con l'apparecchio. Io l'ho avuto e so come funziona la situazione. Avanti Giuseppe, con la buonasera di nuovo a me rientrare. Va, torna a me, scusa. Avanti. Vabbè Giuseppe. Ciao Lu, è bene, tutto a posto. Ehi, andava. Dunque lo so già, secondo del normale, cioè, perché ci vuole anche la distanza, capito? Adesso sono microfoni. Io sono distante mezzo metro dal microfono. Luca, interrogativo, sempre che mi voglia rispondere, quel microfono là ce l'hai ancora? Quale? Quello del Typhoon. Sempre. Il Typhoon è vero? No. Non è ancora vero, pensavo l'avessi venduto. Mamma, ho voluto 8001. Ma l'8001 è il tuo, era perché? No. E non potevi proporre il Typhoon? Pure da 8001 per modificarlo. Capito? E se minimo della pena di un CC vulcano. Ma è un appassionato di lui dell'8001. No, c'è un bel apparecchio, è la verità. Però esce basso di radio. A me non mi ha soddisfatto quello, sì, con la verità. Si è fatto bene, piace bene. Vai Giuseppe. K, pari positivo ragazzi. quando un apparecchio esce bene di radio, diciamo che il segnale può essere anche relativo, perché magari uno esce, che ne so, 9.30 e 9.40 di coso di Santiago e radio magari 4. L'importante è, anche se il segnale è basso e hai una buona radio, hai voglia. Infatti gli apparecchi modificati li fanno così, escono a base di segnale, ma in radio pompano alla grande. Ti sentirai sempre anche in lontananza, ti sentirai Santiago 1, però la radio pompa e arrivano forti in radio. K, come quello che ho io in barra pesante, e come Santiago non è alto, però la radio pompa. E adesso me ne ordinerò anch'io uno di DM1000, dai, e me lo metto al posto di quel microfono di cavolo dell'M93. K di positivo, no, questo va bene, Gianni, va bene, perlomeno. Quando lo uso io in barra pesante, in genere mi date sempre dei controlli, anche in lontananza, Santiago magari 2, Santiago 3, però radio sempre a bomba. Se non le conosco ti dico non lo so, però se sono stato il primo a provarle, questo microfono qua sono stato il primo a assassare davvero. Quello consigliato ad altra gente, tutti ce l'hanno comprato, il secondo se l'ha comprato Pierpaolo, perché gli ho detto io che andava bene, e gli ho fatto prendere a lui, poi a rotazione tutti i gatti, così 747 la stessa cosa. Quando funziona bene una cosa, ad esempio il mio, diciamo, si è sposato bene con i 248 che ho, con uno va bene e con l'altro va bene lo stesso. Il DM1000 è fatto apposta per la LAN 48, poi si adatta a tutti gli apparati, però è stato costruito proprio per la LAN 48. Bene. Sentite le sfuriate di propagazione che stanno entrando? Io ancora non ho sentito voce. Ammi lui. Attenzione, mon amici, qui ti dice la Strobeni che ti fa brilli. Sì, è la stazione del Taromeo della Ville Sassari. Departement 164. 164 Nord Sardinia. Trasponder, operazione di Ramispoe Spuita, Colombia. Attenzione, misure di glicemia. Attenzione. Positivo, vela, e quello è una botta di vita a quest'ora, Siccome mi ha tirato spua, Gianni, quello mi sa che non è francese, comunque quello era uno di quelli slavi, con il genere. Trasgnocca, attento Polaschi si ascolti a salire. Già fatto. Dio, spuca! E Paolo, non ho mangiato i fuori stasera, ce la facciamo. Una mangiata di fame, siamo qua. Cos'è? Non lo so già, adesso come adesso, così su due piedi non ti posso dire niente, perché in questo momento qui sono solo, non so come sia organizzata la cosa. Tra una mezz'oretta, tre quarti d'ora ti posso dare anche il responso. No, perché se no ci conserviamo lo stomaco libero. Diversamente qualche cosa bisogna mettere a tappare il buco nell'ozono, no? Eh, guarda, io il buco dell'ozono l'ho dovuto tappare poco fa perché il rullamento di quella storia lì, Gianni, quando cominci a mastuzzarla è come le ciliegie, una tira l'altra. E tirami su stasera non ne ho, però ho un bel piatto adesso davanti di quei frullini alla panna, tutti quanti spalmati con la doppia morbacchia, da me doppia mozzarella, con la doppia Nutella. E niente, un fondino me lo faccio nello stomaco, se poi c'è la possibilità di mangiare 4, 5, 6, 10, 12 fette di fainì, il buchetto lo troviamo, dai, andiamo. Andiamo di quella via Usai, ci rimaniamo al tavolino, tranquilli, ci beviamo una bottiglia d'acqua. È il segnale che mi entra a casa, mentre noi stiamo mangiando la fainè, che casa e mi scombussola tutti gli apparati poi. Vuole stare a casa, sì, proprio, si occupa di questo segnale, sarà mai via ipnotizzato. Guarda, ma se vengo a scoprire da dove sta venendo fuori, altro che tirami su. Ma Roberto, non l'hai contattato? No, Roberto, a parte il fatto che non ho manco numero di telefono di Roberto, lo conosco solo così, diciamo per radio. E niente, già, anche dovendolo contattare cosa gli dico? Ciao, sono Giuseppe, puoi venire perché cioè, ci conosciamo così, e sono per radio, non è che... posso parlare ad esempio come posso fare con te o come posso fare ad esempio con Pierpaolo oppure con Luca che vi conosco di persona oppure con Alex, insomma è già un rapporto diverso. Sì, Giuseppe, ma si è offerto lui ti ha detto quando c'è il rumore mi telefoni, vengo e con l'apparecchio controlliamo, non c'è problema, te l'ha detto lui. Ma se non mi ricordo male lui mi ha detto la settimana, questa settimana che sta entrando. Ma così, devo per la prima vittoria passata. Io adesso lo so anche, Vittorio naturalmente se sarà, passerà in settimana. Ha detto di chiamarlo tu quando, solo che Vittorio sai cose, che fa assistenza a furia. C'ha ripetitori, c'ha praticamente usa televisori, fa tutte queste cose, va a ritirarli, porto Torre, Sorbia, Calangiano, Settempio, guarda tutte le quattro. Praticamente sono un uomo perso. Poi che lo devi beccare il momento giusto quando arriva, quello che c'è, qua. Non so che dirti, io se avessi avuto l'apparecchio sarei stato prima a venire, Giuseppe, e avevo controllato, quando ce l'ho. Kappa, vediamo un po' se riusciamo, se no ciccia, dai, mica posso stare a farmi prendere i sentimenti da questo coso qui, dai. Una cosa è certa, che se non lascio spento, quando si presenta non mi dà fastidio. Vedi su al televisore poi e la sentita ti svegli del televisore quando lo serrato salgo e ve ne stacco l'antenna dalla televisione a tutti, non le guardo io ma vanno voi. Così la mia ti viene un po' male a staccarla, è troppo in alto con l'altezza. Pian pianino già ci arriva. Kappa, c'è un poliziotto a passare, un carabiniere, vabbè l'ispettore se n'è andato, ma ci sono molte persone armate. Kappa, l'importante è che a me l'ascensore mi lasci sempre all'ultimo piano, Gianni, poi per il resto ci penso io. Così mi dici. Cava. Ma se mi passi qua e ti porto via anche la televisione a me fa un favore. Kappa, ma faccio. Guarda, io fa vite e già lo beve, dai. Beve, dai. Gianni, tu c'è più. Ma che già ne stavi dicendo? Rum o caprelume? Rum con rum. Ah, cappagatta. No, caprelume è a segno. Caprelume, ma lo beve proprio un goccetto pranzando, non è beve di quella cosa lì. E mentre l'altro di Gianni beve vino e acqua vite, oppure quando è in forma beve acqua vite e vino. Ah, il rum non lo beve? Ma perché sei radice c'è anche il rum qui a casa? Cappa di positivo, allora andiamo a nozze. Va bene, la stasera tutti a casa che vi offro da bere. Thank you. sembra più un incubo che diciamo che un disturbo. Facciamo entrare subito il break, dai, avanti il break. Ok, buonasera a tutti, bene brutti, sono nuovo, dunque non so come comportarmi. Un controllo, grazie. Ciao Battisio, ben sentito. Fatti gli affari tua. Allora, il controllo glielo do io, radio 3479 e Santiago 26, 28 e 52, K2, K2. Benissimo, grazie Giuseppe, molto gentile nel controllo. Quali positivo Bacchì, per gli amici questo è altro. Avanti Mario per Bacchisio, K di positivo. Oh Bacchì, abbassatemi, che Mario sta arrivando con una schioppettata adesso. Adesso. Ciao Bacchì, buonasera, mi sentito? Sì, ciao Mario, buonasera, ben ascoltato anche a te. Ehi, due giri di smita non riesci a farmeli fare però, eh? Sì, perché se lo so, non andrà anche io a farti fare due giri di smita. Io sono normale come tutti gli altri. E come puoi alternata? Sì, beh, quello è perché il microfono è intasato tra l'apparato e l'interno del mobile, dai. Ok, e ascolta tutte le porcherie che ci sono. Beh, purtroppo cosa vuoi? Lo riconosco, rimetterlo è quello lì. Ia, ia, ia. Gianni, buonasera anche a te, avanti. Buonasera Battisio, volevi stare in anonimo, mi dispiace averti svelato, sono relativo, ma tu non puoi aprire bocca come già lo sai. Sì, perché tu, è ieri che ti ho sentito. Fa capo. Cosa ti stavo dicendo Mario? E per le stazionarie come vanno, le avete controllate? Cappa, prima di piazzare il tutto, uno e uno. E dopo non le avete più controllate? E dopo le abbiamo controllate anche giù dall'apparato, sempre uno e uno. E allora già va bene, già hai in un slide. È così che va tarata con l'antenna, va uno e uno. Cappa di positivo. Bacchisio, Bacchisio, che non si sa. Ti prendi te là. Ma prima o poi vedrai di sabana. In pochi sono, lo sanno. Capito, vai Mario. Dice Gianni, dice che le stazionarie. Ormai stazionarie non ci sono più, ora sono a Pretanieta, cosa stazionarie? Che cosa stai a controllare le stazionarie? A Pretanieta devo andare. Che bello. Vero anche quello. Avanti, chi è? Sei tu vicino? Non sei tu, sei troppo basso. Io perché? Come? E beh, perché? Abbiamo svegliato il bambino. Tu già te ne sono confuso. Ma poco fa è entrato anche Corso. K. Vabbè, non lo prende. Qua sono. Ma io, dammi un controllo a me. La tua attivata, sì, 9, 20. Praticamente 20 dB di guadagno. Sono attivato, sì, 9, 40. È abbondante anche. K. Anche tu sei arrivato. Devo portare sul segnale di Giuseppe. Vado a 40. Gianni, era già mette più alto di te. Anche qui è leggermente più alto di voi, perché qui me lo segna a fondo scala, Gianni. Gappa, gappa, ma questa estate ci diverte a fare di ex, dai. Che ho sto qua? Adesso è bella, lucida, lucida, lì, già. E problemi che è andata a passare a palo, Mari? No, mi si è rotto un bullone della staffa che reggeva l'antenna. Meno male ci avevi il ricambio, là. Cappa. Se ci avevi in acciaio, sì. No, operaio voglio, ormai non si arrugginiscono. Sì, ma ogni mattina fa bucare la terra lì, dal tubo, vabbè, io l'avrei messo in acciaio così almeno non si arrugginiscono. Una volta più fidato costava una cazzata, non è che costano molto. L'ho capito, Giupiro, ma io volevo mettere addirittura anche quelle che mantengono la mantova sul tubo. Invece sono anche quelle sono in ferro e quelle lì si sono spaccate tutte. E poi ho dovuto tagliare la cassetta che teneva con la moletta. Ma ti stavo dicendo, ma da dove si è spaccato esattamente? Dopo un po' di anni puoi mettere quello che vuoi, ma si va in deperimento. Sì, vabbè, ma guarda che io non ne ho mai visto, ho visto le antenne piegate, la mia è scesa intera, e sai perché quando stavo modulando che era coricata, cosa la stavo mantenendo? L'antenna del televisore, già l'ho vista, io sono stato il primo forse che l'ho vista l'antenna, non mi sono capito che fosse prima il centro. Quello che manteneva l'antenna era la serpentina di sotto, quella specie di carica, no? Perché era abbonata e niente, poi non teneva la coricata adagiata sulla camera della televisione. Passato presto presto questa antenna coricata, non mi sa se mai non se ne è accorto che il vento non è lampato l'antenna. Ho detto, boh, avvisati, non faceva perché non c'era un numero. Ho detto, già se ne accorgerà modulando, magari che non esce. Avanti Pierpaolo! Forza dal 21! Cappa! No, me ne sono accorto perché la sera stessa di colpo è passato il segnale e me l'aveva detto questo quadrato che mi era passato un bel segnale e sono uscito fuori, ho visto che l'antenna era rotta, cioè era coricata, però usciva sempre dell'aria perché stazionaria non me ne dava, ma io ho detto che stazionaria non me ne dava. Poi invece si è rotta del tutto ed è caduta giù. Hai capito, dottor Ru? Sì, c'è abbattimento adesso perché ci sono spostati il canale Giuseppe con Pierpaolo e dunque sono a fianco. Ci sta a parte di Giuseppe, prova tu, dai. gira pure che me ne vuoi su mio pare sia quello già che spira oggi è già che ci si chiede colorare stazionare lamba Giuseppe per la tecnologia K di positivo e buonasera Turchia, buonasera qui Italy, Italy e Sardegna, nord Sardegna, K, avanti Turchia. Paratoro, paratoro, non è Yashar, capito? K di positivo, amico della Turchia, K di positivo. Opa, buenas noches amigos, namo Yajar. Yajar, io mi chiamo Delta Romeo della città di Sassari, nord Sardegna, dai. Noi ti salutiamo, ci ha fatto piacere sentirti. Ciao Turchia, ciao. Ciao. K, K di positivo, ciao Turchia, ciao. Ciao. Hakan Şükür, İtalyan Torino, Hakan Şükür. Türkiye, Hakan Şükür. Ayşe, teyze, teyze, teyze, teyze, teyze, teyze, teyze, tarafına kadar yetiştirdin sesini ha. Attenzione mon ami, c'è qui tu lui della Sardegna che ti fa belli, sia la stazione del Tagoreo della Ville di Sassari. Allora mon ami, pure c'è qui tu lui della Sardegna. Io, haberim yok, chi è che mi sedem? Bir daha söyle, anlat yavaş yavaş. Operatore Massimo, tamam? Oui Massimo, je m'appelle Jean, mais mon nom est Jean. Je me trouve à 20 km de Porto Torres. La ville est Sassari. Sassari. Bonsoir mon ami, avant. Onda dönecek çünkü burası en güzel. Görüşmeler, yüksekler, yakınlar, uzaklar. Pura Fransa va. Avanti con la buonasera. 9:40 sono qua. Peppe. le problème, Jean-Sian. Attention mon ami, c'est que tu es de la santé qui t'y fait appel ici à l'ascension del Tagomeo de la ville de Saint-Saint-Denis. Attention mon ami, c'est que tu es de l'Italie qui appelle. Ça va mon ami de l'Italie. T'appelles, quel est ton prénom? Mon prénom est Noël. Bien sûr, vers la Turquie, il y a la Turquie. Bonsoir mon ami de la Turquie. Bonsoir mon ami. Io sono un attorino, le mortacci due. Ehi, non stavo io con i sciugli. Ma c'è una propagazione stasera, Natalia, che è una cosa allucinante. Come ti arriva con questa radietta? Ti pensano... Ma ti dico, però i 10 a me ti sono stati mandati a laterale, non qua. Adesso me ne vado nel canale di chiamata. Ti scudo due colpi, un K. Vai là, vai là. Io ho già parlato con la Turchia comunque. E chi era il turco? Jasmine. Jasmine, una cosa del genere. Ma la laterale ce n'è sopra di propagazione? Boh, non ne ho guardato sinceramente. Giuseppe, ci siete voi? Marico Canal, Marico, Marico, in chi vi Mobiller merkezler, çağrı yapan, Hataylı delil merkezler. Attento Turchia, se ascolti Italia, capo. Ok, ok, italiano amico, italiano. Di te Natalia. Turchia, Turchia, centro, centro, Antakya, Hatay. Centro, Antakya, Hatay, Turchia. Attention frequency, if you could be North Sardinia Island, Italy calling, station 165, Mike November Oscar, over, over. If you will come on, it's your name, I'm not fast. Va poco, ma. Claus, vabbè, me ne vado su, ciao, ciao. Claus, on the cruiser. Vedi, ho si, Natali. Covere. Ah, il film break. Ma che piano? Il covering. La piano di sopra. Me ne vado a vedere se c'è propagazione su. Qual è? Dimmi la frequenza, qual è? Il 12 in mano laterale. Si cade, mi ragazzo di gallo. Qual è Natali? Station 2755. Cioè, il canale 12 sopra, dai. Paris, 27 Paris, Canal Mobil Antalya. Avanti, chi chiama l'Italia, avanti. Italia, Italia, Italia, Turchia, Antalya. Capa, qua, Nord Sardegna, Nord Sardegna che ti cordializza, buonasera. İki bir kanalı sesimi veren uzak istasyonlar. Akıncı merkez Trabzon burası. Ya o şey karma karışım ya çok baskılı geldiler ya. İki bir kanalı sesimi veren uzak istasyonlar. Akıncı merkez Trabzon. Trabzon Akıncı. Yabancılar bizi mahvetti. oldu ya? O devamlı beni yakalıyor ya. Güzel arkadaş diyor, Musa diyor. Torinolu, Torinolu. Hakan'ı sordum. Che lo faccia, dai. Ci abbiamo Giuseppe che è un'inchiesta. equilibrista. Ciao Capri 2, buonasera. Siamo scesi alle 2:30 da sopra il tetto. dire una cosa. Con la Mantova 5 niente a che vedere. Secondo me la Mantova 5 è superiore alla Mantova Turco. Ma Mario, io ti dico una cosa, io ce l'ho uno addirittura, non ce l'ho né la Turbo né la 5, ce l'ho nella 1. No, perché Budose prima con la Mantova 5 io sentivo anche quelli piccolini piccolini da Macomere. E adesso io ho sentito a come si chiama, Capri 2, però lo sentivo, adesso l'ho sentito ancora più basso di quando avevo la Mantova 5. Dava di Darecci. Anche la gente fissata da Turbo e così di più, secondo me siamo lì, no, non cambia più di tanto, però adesso è aumentato anche un po', perché da 9,10 si è passato a 9 quasi 25. Ah, no, Vulcano, ben entrato, ben sentito. Sono di passaggio, sono, buonasera a tutti. Mario, non ti hai lavato le orecchie, lavati come Gianni Cipone, ti devi lavare le orecchie. Ce l'ho sempre a nessuno. Se lui la mattina non ti lava le orecchie, come fa a ascoltare la gente? Luca, bella, bravo. Cioè, io me lo ricordo come sentivo a Capri 2 prima di cadermi l'antenna. E lo sentivo abbastanza bene, anche se lui era in quelle condizioni precarie. Perché adesso lo ascolto più basso ancora di come lo sentivo con la Mantova 5. Poi può darsi che l'antenna si deve accettare e deve fare ancora il suo effetto, non lo so. Però ti posso dire che io sono sceso alle 2:30 dal tetto e la sto provando adesso la radio, Adesso domani noi facciamo le prove, vediamo com'è la situazione da Macomer, capito? E te ne rendi conto, domani facciamo le prove, domani mattina. Tu domani mattina alle 4:30 mettiti in radio e vedrai, facciamo le prove, e se è possibile anche prima. Volcano, via. Io a Macomer ci arrivo. Ci arrivi. Voglio vedere Mario com'è, prima ci arrivavo, voglio vedere adesso. Distante, lontananza, e lo voglio ascoltare a Mario, hai capito? Lo voglio ascoltare in lontananza. Scappa. Ma va, insomma, da chi non va? Va. Ciao Ruggero, dovrebbe andare, non lo so. Però io a Mario già l'ascolto, adesso l'ascolto. Però, per sia che la Mantova 5 è una buona antenna, diciamo che forse è una delle migliori. Non c'è da dire niente, proprio niente, capito? La Mantova Turbo dovrebbe andare di più, dovrebbe, però non c'è da togliere niente la Mantova 5, perché io sento quelli con la Mantova 5 e non mi sembra che ci sia tutta questa differenza tra la Turbo e la Mantova 5. Comunque a Capri 2 lo sento più basso anche io, e l'antenna non ne ho cambiato, probabilmente anche la propagazione che ha fatto abbassare il volume della radio a lui, c'è poco da fare, lo copre un po' la propagazione. Capri 2, salutami la tua 50, avanti con la buonasera. Aspetta un attimo. Gianni, come sto scendo? L'avete coperta. Buonasera signora, comunque Gianni doppio non da questa parte. Che vi supercordializza. Avanti, c'era Natalino che magari ti chiamava e non lo so. Avanti Natalino. Volevo sapere come stavo scendo, va. Aspetta, faccio un troppo basso. Va bene, va. Come sta andando di radio? Sta andando bene, Giuseppe. Lasciato a Mario e vedere come lo copiava Gianni Capri 2. Oh, scusate un attimino, per esempio a Gianni Capri 2 oggi non lo ascolto, io sto ascoltando, non lo sento, qui a ottavo io non lo ascolto proprio, vuol dire che lui è in vettura, non è in casa sua. Neanche io lo sento, gli dici. È a casa, gli dici, sicuramente la propagazione che lo copre. No, lui non lo ascolto per niente, prima mi arrivava Santiago 2 e 3, ma non intendo proprio in Bannuda. Ma sì, ma lui è a casa. Gruppi, e quello voglio dire anche a Mario. Mario, io a Gianni ascoltavo bene a volte qua, adesso io non lo sento proprio. Gianni qua non arriva, oggi non sarà, non so come, però non arriva proprio. Oh ragazzi, devo scendere un attimino con l'autore, sì, accompagnare, ne sono salito poco fa e devo scendere nuovamente, dai, devo accompagnare a questi giù a l'autore. Cioè, al limite ce la ascoltiamo le macchine dalla vettura, riprendi, riprendi già. Facciamo compagnia sino a scendere e salire, dai, manco di andato da lì vicino. Capito Mario, anche io lo sento più basso stasera, quindi non dipende da te, dipende sicuramente dalla propagazione che c'è. Quando lui si metterà in testa di mettersi questa benedetta antenna o di alzarla almeno quella che ha, allora si potrà ragionare. Pierpaolo avanti. Vabbè, riprendo io, così ne approfitto a salutare la signora, buonasera, e niente, io, siccome diciamo che l'ho appena acceso e la sensazione era che io ascoltavo più basso a Corio, a KP2, tutto lì, e a KP2 le volevo dire, ordinandola dalla Tecnocomunicazioni, arrivata a casa costa 111 euro, tutto pagato, mentre che SS di Degrassi la vuole 150 e risparmi ben 39 euro. Va bene. Si conferma. E l'altro attimo Bianco e riprendo subito. Venga, ok, perché? Chi c'era? Giuseppe Tornaro, Pier Paolo, Antonio, ma andati via solo. C'era di loro in parcheggio, non abbiamo mai rilanciato, gli altri sicuramente si sono spostati, non so. No, io l'ho chiamata Pier Paolo, non ha risposto, vuol dire che sì, l'ho chiamato io. Ok, allora non ho sentito. Gianni, lo do segnale a casa tua. Guarda un po', ci sono allogato. Prova a vedere. Guarda quanto ti sto arrivando lì, perché devo avere uno spezzo, mi va male, l'altro non lo posso usare, non ho voglia adesso di mettermi a fare. Ma qua si arriva a fare, sei 9.30 quasi. Vabbè, con questo sì, per l'altro non riesco a usarlo, non riesco a accordarmi con l'accordatore, evidentemente c'è lo spezzone che va male dell'antenna. Va bene, va bene. E io come segnale come ci sta arrivando un attacco? Dai. Prova a vedere, 1, 2, 3, prova. 30. Chiaro. Va bene, io che c'ho quella spezzone là, domani lo bravo, domani vedo di aggiustarlo. Sicuramente c'è qualche filo che so, non riesco a contare con la portata, evidentemente c'è quello lì che va male. Un secondo solo, fai il carro di 100 euro al mese, non è che hai pagato molto. Io ogni due mesi pago 300, dai 320 in su, fino a 350, mi si dà sempre delle 10 euro, delle 20 euro, però io ho un minimo di 320 a un massimo di 350. Ah, diciamo che da arrivare troppo deboli, troppo duro, poco, poco tempo, ma che si appoggia la cornacchia e si butta giù. Bene, bene, allora Robè, ho visto, il tempo va girato, che palle. E va bene, non male, non c'è da sbagliare. Qualche giorno di tregua e poi arriva un pochettino. Ma sapevo che non l'ho neanche visto, c'è già acqua. Si è calmato, boh, io mi sono che c'è bagnato, full. Non è messo l'acqua, dopo domani il sole, dopo domani ancora acqua. E vabbè, già siamo abituati, non è il problema. No? Quando sono rientrato io alle 2:30 era coperta, ma l'acqua non ne ho vista. Anche io stamattina ero in giro. Faccio un giro con Claudio e faccio un caffè e stava bene, la verità. Sì, no, a livello di temperatura non c'era niente di importante, dai, stava abbastanza bene. Avanti, capo. Vabbè, ci sentiamo domani. Non ho parole stasera. Non ho parole. qualche punto sinistra per la pontete. Guarda, stamattina mi fa che volevo dire a Capri, guarda caso, ho trovato una persona, non diciamo il nome e cognome, che fa i controlli, stavo parlando un po' in generale, che allora gliel'hanno data, a questo gliel'hanno data per cosa, per come si chiama? Quando c'è dei titoli ti danno direttamente la patente, ti danno la conversione senza fare esame, senza colesonolo di esame, stavo parlando un po' in generale di queste frequenze qua, gente che fa qualcosa, ma anche loro sono stati fatti, ma come cavolo, quando ho detto la seduta d'esame che abbiamo fatto, è rimasta a bocca aperta pure lui, ha detto cavolo, addirittura. E io. Però oltre che quelli fai anche controlli, diciamo, di altre cose, dai, non diciamo particolari, perché in Italia ce ne sono 50 di queste persone, per cui se diciamo troppi particolari si capisce chi è. Dai. Comunque siamo amici, ero da un po' che non lo vedevamo, addirittura mi ha trovato lui, mi ha detto altre cose e mi ha fatto sì, a Puglia. Giusto appunto si è arrivato, siamo arrivati un po' chiacchierando e abbiamo parlato di questi discorsi qua. È proprio così, comunque non diciamo troppo adesso, se no si capisce. No, va bene, non diciamo altro. Più che altro abbiamo iniziato il discorso del mare, perché anche lui è appassionato di parche e poi da lì poi ho continuato a dirgli cosa stava combinando, era da qualche anno che non lo vedevo, comunque non c'è problema, dai, meglio avere sempre qualche amicizia autoloccata. Va bene Luca, riprendi. Ecco. Vabbè, piano piano, dai. Piano piano si fa tutto. E tu fatti due, perché tu la patente? Puoi cambiare la palla. magari anche Luca, se non mi dispiace parlare solo noi due. Oh, rimaniamo anche qua, non c'è problema, dire andare in FM voglio dire. Proviamo in FM se va bene. L'altro giorno Luca, eravamo, conservatore stava facendo le prove con lo split, cioè trasmettere su un canale e ricevere sull'altro. Mi vari più tardi lo possiamo anche provare, così ti provi anche le prestazioni, le opportunità di quell'apparato. Vediamo. Ma cacchio questo rumore? La conoscete di fatto. No. Ma scaricare, capito? Che non sia qualche non lo so cosa, vabbè c'è un sacco di umidità nell'aria, non lo so, propagazione di tutti i generi. Io qua non va benissimo. Prima mezz'ora fa magari c'era molto più disturbo, adesso è tutto a posto, libero. Si confermo. Non ne ho idea. Non ne ho idea cosa fosse, vabbè. Sento un attimo, arrivo subito. E quindi ho capito roba. Mi faccio tutti in ferme, così. Vabbè, che magari riesco. Mi lascia superare questo rumore. Hola, hola. Aspetta che siamo in FM, chi è quello che è stato? Siamo in FM canale 5, andiamo tutti lì. Capri, andiamo in FM canale 5. sarà rimasta sulla carcassa. A me dice lì sempre, soprattutto su quello grande, perché magari quelli anche qualche problema non te lo elimina. Vai Caprica. No, lo senti tu, per sabato ci date, ce l'ho sentito il venerdì e dice dovevo andare a Tempio, perché adesso ha aperto un'attività di lì. Se vuoi portare piazza l'antenna di lì, così dice sarà il primo a parlare con Sassari. Una bella antenna si vuole mettere. Che si fa? Ti è capitato di parlare con Tempio a te? A Tempio città stiamo parlando, non andando a Tempio, no? Cerchiamo di fare le conversazioni in modo da non fare troppo monopulo, in modo che partecipi anche Luca. Comunque tanto anche Falche, lo facciamo entrare avanti, Falche. Ehi K, ma dove si tiene FM? Perché non si sente? K, no, come mai questa FM? Così dai, perché c'era il disturbo di Luca, non abbiamo problemi di QRM né niente, però purtroppo Luca c'ha grossi problemi di ricezione, non so per quale motivo, qualche disturbo. Lo senti, ti rilancio Falchetto per Capri, avanti Capri per Falchetto. Beh, si è abbassato un bel rumore, aspetta. Santiago 3, Radio 4. possibile. Allora lui l'altro giorno quando facciamo le prove con Domenica addirittura lo sentiva forse in certi punti anche meglio di me, perché lo rispondeva, io lo sentivo in mezzo al QRM. Lui è K2 e qua sta arrivando 9 più 20 come in FM, e in AM arriva 9 più 5, è perfettamente radio perfetta. Non riesco a capire per quale motivo, che anche lui per dire in certe zone arriva molto più forte, cioè mi ascolta molto meglio, diciamo, Falchetto. Stranamente verso muro si è chiuso. Ma io? E tu se mi dici di arrivare a Santiago 3, Luca, quando ti arriva a Capri? Intorno ai 9 ti arrivava, così prima. In AM intorno ai 9, in FM 9.20, però c'è questo vento ma 9.40. Due li arrivo, se non vado errato, 9.95, 9.10, non mi ricordo come, via bomba. Lui che io ricevo basso, lui mi riceve alto, ma io lo ricevo basso. E infatti è quello, probabilmente sei completamente chiuso per muro, considerando che dovresti essere aperto, cioè guardando dove sei messo dovresti essere molto aperto. Comunque Luca, avete parlato in due, cosa hai detto Luca? Ho detto che allora in AM mi arriva a 9 Capri, però l'istrumento lo supera. In AM, in FM mi arriva 9.20 Capri, però il rumore è 9.40. C'è il disturbo. Quello che sto dicendo, come mai a Falchetto gli arriva a 3? Io non riesco a comprendere questo. Cioè gli arriva domenica verso dopo Trieri, lo riesce a sentire. Forse gli non è quello, però riesce a ascoltarlo. Lui che è molto più vicino ed è molto più aperto, gli arriva a 3. Boh, è quello il problema. Aspetta, facciamo riprendere a Massimiliano. Massimiliano, invece sei molto vicino tu. Io sono a casa mia. Ehi, addirittura. Ciao, Robe. Mi ha salvato. A casa mia solo. Ecco, sei in fondo scala, ma c'è qualche giocattolo vicino. C'ho l'MDP5 con il tornado che c'è 7 watt. Qua sei in fondo scala, vediamo attenuato, prova un po' a parlare. Guarda, vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non c'è niente, 2 solo, barracchino e MDP5, basta. Una bomba, in FM con la radio è una bomba. Attenuato 6, 9, 10, fondo scala senza attenuatore. Comunque facciamo entrare anche a Salvatore, così gli dà anche un controllo lui, vediamo se riesce a sentire a Capri. Ciao Salvatore, ben sentito, avanti Salvatore per Capri. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Roberto, ciao Massimiliano, confermi che siete a 016, Robè? 015, dai. Aspetta che l'ha risposto. No, non ho copiato, non ho copiato, ecco perché. Ecco, diciamo stazionale qua. No, ho copiato a Capri, non l'ho sentito. Per un passaggio, buonasera a Capri. Quasi 9, sì, no. La radio 5 è pulita? La radio è perfetta. Allora rimaniamo così, dai. Così non sovraccarichiamo niente. Vediamo un pochettino, Salvatore, riprenditela. Aspetta che mi abbasso anch'io. Così, dai. Beh, ok. Vediamo un po', sì, lasciamo così. Ok, no, che gonfio male, che non lo sento a Massimiliano, qua non sta arrivando un forte Massimiliano, niente. Niente, io non posso né aumentare né abbassare. Allora, ho dovuto mettere l'attenuatore, non bastava l'attenuatore, sono dovuto andare con l'RF Gain per metterla a zero, perché se no mi stava incollando lo svizzero al fondo scala. Ok, ma Luca, anche tu ci sei? Salvatore, aumenta un po' perché non ti sento, ho questo disturbo e non so dove proviene, aumenta, ci avrei sentito comunque. Cappa, adesso ho aumentato, come sei stato? Spero che mi senti, ma cosa hai detto, che sei sfasciato? Cosa? Che mai ti sei sfasciato il giocattolo, che è che mi hai detto poco fa? Allora, c'è questo rumore, 9.40 in FM, 9 in AM. Quanti volevo dire? Niente, capito, non lo sento, tutti voi, tutti i seri, 9.60, Massimiliano 9.50, picchi 9.60, Falchetto 9.50, picchi 9.60, lo metto con lo scala, se venate oltre 9.60 vi sento, altrimenti no. Io più di questo non posso fare, io devo trattare un barracchino. No, 9.50, picchi 60. Allora vuol dire che mi ascolti, là. Niente. Mi dispiace non sentire Capri, ma lui ci ascolta, Robert, facci sentire un po'. Vedi un po' se lui ci ascolta almeno. Capri, l'hai ascoltato Massimo, penso di sì, non c'è un problema. Qua sta arrivando fondo scala Massimiliano. L'hai sentito Capri? Non so, sta parlando, in effetti. Sta parlando. Ok, va bene, dai, siamo qua naturalmente Capri, no? Sta dicendo che è arrivata gente in casa, ripeto a quelli che non ho ascoltato, eventualmente ci sentiamo dopo, dai, è arrivata a salutarvi tutti quanti, non ci sono problemi, vi siete tutti comunque, Massimiliano, Salvatore, Luca, eccetera, non è dubitavo, dai, non ci sono problemi. Allora facciamo girare, iniziamo da Salvatore e poi a girare gli altri. Avanti Salvatore. Vabbè, se mi sento lo saluto a Capri, mi dispiace, poi magari mi spiegherai perché oggi non lo sento, Robè. Ok, va bene, e beh, com'è andata Robè, cosa avete fatto? Niente, anche non avevamo giocato, non si giocava oggi, non c'è, sono andato dopo, ti dico, dai, continuiamo, sono andato con la persona là, Luca, come si chiama, Salvato, quello del numero di telefono, dai, dopo ne parliamo con calma, e facciamo girare a Massimiliano, e poi a Luca. Salvato, non lo senti, perché gli si è rotto il giocattolo, non l'ho preso ancora. A me mi stai facendo il baracchino, invece mi, buldozza, abbascia. E cosa devo abbassare? Che un regolatore watt non ne ha, è regolato a 7 watt, normale, non si può trattare nulla, cosa devo abbassare? Boh. Capito. Sei troppo forte, fortuna per te non sta distorcendo, però sei molto molto oltre i limiti sopportabili. Guarda, posso abbassare un attimino il Mickey Gay qua, bene, va così. Adesso sì, però un po' distorcendo, se adesso va bene. Bene così? K, Massimiliano, K Roger al centro. Positivo, positivo, va. Potevo attaccare quel giocattolo che gli ho regalato, bro. Abbassa ancora per l'ultimo, Massimiliano. Guarda a vedere. Guarda la radio, è una bomba, spettacolare, bellissima. Chiedi conferma anche agli altri, da parte mia tutto ok. K, anch'io confermo, tutto ok, K al centro. Idem. Però aspetta un attimino, è qua. Aspetta. Ok. C'è il voltaggio troppo basso. Infatti non si stava portando, si sedeva l'alimentatore. E me l'ha fatto anche io un pochettino. Poi gli ha fatto un regalo a Capri, ma di lusso davvero, me. Sicuramente non è pronto ancora. Vedrai che poi si farà sentire. Ma qual affare è un giocattolo d'aiuto, sta dicendo? Che quel giocattolo che ne dà mille. È passato, guarda, è stato come qualche altro giorno agli altri, è passato in officina, ero, cioè avevo piacere di conoscerlo, è venuto, sapeva dove lavoravo e ci siamo conosciuti, ha detto, ma mi piace, infatti, ho detto, fatti sentire la radio, mi dice, no, l'ho sentito in radio, forse non vorrei essere io, ve l'ho convinto, comunque, ma sicuramente ho partecipato a convincere la rientra in radio, dai, che fa piacere sentirlo. Mi dispiace non sentirlo perché magari è il problema che c'ha un'antenna un po' troppo attaccata nel tetto, mi hai capito? Lui, cioè, un po' di attrezzarsi con l'antenna, secondo me ha fatto 13. E in più lui giustamente magari con l'antenna che ha un pochino di stazionare, poi con i passaggi lunghi che fa lui, giustamente lo brucia. Vabbè, non c'è problema, le assisteva anche lui, c'è la moglie, le regalava l'altro, ma lui era un po' indeciso, così ha detto fatela regalare subito e piattala in fretta immediatamente, come ha fatto Falchetto, l'hai visto? Ha iniziato da un portatilino, nel giro di un paio di mesi aveva una stazione, una delle più forti di Sassari, diciamo. Infatti così si fa piano piano. Anch'io ho iniziato con una batteria di macchina e un'antenna di macchina, una 2001 turbo c'aveva sul tetto. Scusa un attimino, ti devo fare una domanda proprio. Dimmela. Tu avevi l'aereo la Turbo 2001, così? Io. E com'era come rendimento? Perché? No, perché se scendo al mare, rispetto a una mini, io ho una mini Grand Prix per dirti, però su questa casa dove sto ultimamente non rende niente, solo verso il mare va, verso la città, ma così fa, intendi? Magari mettendo la Turbo 2001 riesci ad arrivare un po' meglio, cosa dici tu? Guarda, va bene, la 2001 Turbo va benissimo. Non mi dispiace neanche quella che ho montato nella macchina, la verità, perché siamo più o meno agli stessi livelli. Io nella macchina ho una Midland 48X Turbo, sono le ultime della Midland che hanno fatto e non c'è niente a che vedere che con la 2001, sono due antenne molto simili, capito? La 2001 spinge un pochino di più perché è un pochino più alta, capito? Adesso facciamo prendere a Salvatore Maestrale che da un po' in parcheggio. Avanti Salvatore. No, va bene così. Poi mi dai quel prossimo passaggio e mi dici se cos'è combinato là. Ma l'hai visto? Hai visto e fotografato pure Miluca, Salvatore. Ma è interessante la cosa? Da certi punti di vista sì, per altri punti di vista è un punto interrogativo. Vabbè, quello del punto interrogativo non lo immagino, no, mi dimmi come mezzo, come che io dentro non l'ho mai visto. Ah, dentro come uso è, diciamo, non è molto usato, però è, diciamo, è sporco, fermo da un po' di tempo, diciamo, vuole tutto disinfettato, lavato, eccetera, eccetera. Però per il resto è appetibile, dai. Scusate, riprendo io un secondo, dai, che qua mia figlia sta piangendo a macchini. Se non riprendo, dai, ritenetevi tutti salutati. Chiudo, scusate, ci sentiamo, dai, ciao ciao. Ok, ciao Massimiliano, senti, ciao, avanti Luca per Massimiliano. Massimiliano, ci sentiamo nel prossimo, dai. Buon curativo tutto, sempre con rumore, madonna, ma che fastidioso, vai Salvatore. Ciao Massimiliano, già se rientri già ti sento, prima a sentirti sono io, tanto lì all'aria siamo talmente vicini e basta che soffi sul microfono che ti sento. Ok, vai Falchè. Ciao Massimiliano, dai, se rientri già siamo qua. Buon tutto, dai, ci ascoltiamo le migliori, ciao, avanti Roberto. Sì, vabbè, l'ho già salutato. Allora, stavo dicendo, Luca e Salvatore, che Falchetto c'ha un nipotino, hai visto? Cosa? Falchetto c'ha un nipotino adesso. Cioè? Ma l'hai visto come ti ha chiamato lo figlio di Briatore? No. Falco l'ha chiamato. Stavo dicendo, Luca, ma se c'è più disturbi su questo, spostiamoci. Magari se questa frequenza c'è qualcosa che ti dà fastidio. Non so, vogliamo salire di più. Falchetto, fino a dove puoi arrivare? 400 canali, c'ho io. Io devi spostarci, se la fastidio a Falchetto, vabbè, ci spostiamo, andiamo più in su. Ma Luca poco fa siamo scesi più in giù, ha detto c'era da tutte le parti, infatti abbiamo fatto la prova con Fave, con Capri, ha detto non cambia niente, c'era da tutte le parti. Luca, vai cercati una... dimmi dove lo senti di meno e ci spostiamo lì. non lo so, 25 sicuramente non lo sento, cioè faccio un diretto, Oh Luca, oh yeah. No, ma come si chiama? Possiamo, ma se disturbi la chiama e mi senti disturbato? Ma te no, non so già cosa cavolo è. Vedi, ma adesso lo facevo questa radio qua. Pensavo magari c'era qualcosa che non andava, ma non fa anche l'altro malacchino. Sto pensando che sia il capo, aspetta che gli metto l'antenna diretta, dai. Sì, proprio l'antenna diretta. Poi Luca, dici se devono sollevare loro, cosa dobbiamo fare, dai. E poi ti chiudi tutto lo squelce. Vai, fate. Ehi, KK, non lo so, ditemi voi dove devo andare, che canale. Ma se ci ascolta rimaniamo qua, che cosa ci fa da rispostarci? Poi vai, se vuole entrare qualche un altro, non c'è problema. Magari dopo con Salvatore volevo fare quella prova l'altro giorno, Salvatore. Eh sì, quando vuoi, va bene, alla fine poi lo facciamo, ce ne spaziamo e lo facciamo. Va bene, no, rimaniamo qua. Che cosa corrisponde questo, Robè? All'uno? 5. No, c'è sempre, Robè. Ma scusa un attimino, Salvatore tu lo senti bene, vero? Cosa, scusa Robè? Tu a Salvatore lo ascolti bene? Sì, adesso si passa la massa, no? Ha fatto bene l'ascolto. Pappa, idem. Aspetta, è arrivata col commutatore, Robè. Allora, fai una cosa, chiudi l'RF gain, ti metti fino al segnale 950, quanto è il segnale più basso nostro, e arrivi a quelli metterli così non senti più niente. Mi deve fare così, perché io adesso per potermi far sentire da lui, non sono basso, Robè. Quanto deve stare dando? Ma detto solleva, adesso va, te lo dico subito, scala 250, una sessantina insomma. Addirittura. Se vuoi io mi abbasso. Beh, se fondo scala, va bene, non mi do problemi. Davvero, va bene, adesso va. Stavo dicendo, comunque ne va la pena, ma grande Robè, come con internamente? 5 posti, però è disposto bene, diciamo come disposizione è messo bene. Pensi che ci riesci? Scusa, non capisco. Penso che ci riesci a fare quella roba burocratica? Non lo so, infatti devo chiedere. Poi già ti faccio sapere certi particolari che sono un po' così strani, là. Beh, quello... Il tipo è un po' particolare, bisogna prenderlo con le pinze, mi. Non lo so, infatti me ne sono accorto. Stava facendo? No, quando sono arrivato io l'ho telefonato, stavo mangiando. Sono andato tardi, alle 2, qualche cosa, là. Ma comunque, da quel lato è gentile, No, assolutamente, niente di cosa, di anormale, dai. Ho visto quello un po' di mutinaggio, per l'epoca di roba, però dice, il terreno è suo, però quello che c'è dietro non è roba sua. Ciò che c'è tutto affittato, mi sembra ci siano due carrozzine lì dentro. Vabbè, ho visto cose che non mi sono piaciute molto, dai. Più di una. Invece a me ieri sera, io ero tutto il giorno a Tempio, no? Quando siamo entrati, che è venuta anche mia moglie a farmi compagnia, quando siamo entrati a le 5 e mezza, ero tranquillo e mi bussano alla porta uno dei vicini di casa, ha incavolato nero Robè, e qua mi state disturbando la televisione, non riesco a vederla, e c'è sempre tutto il giorno c'ho sempre il segnale, e niente, scusi, tutto il giorno, ma io non, tutto il giorno non ci sono, mica ci sono alla radio tutto il giorno, e a parte che mi sembra strano che mi disturbi, e poi tutto il giorno io esco a lavorare che arrivo a casa che sono le 7 e mezza, quindi io ho detto, non mi sta dicendo una fesseria, sta dicendo, ma non è possibile, mille cose, mi ha fatto rugare pallone, poi se faccio una cosa, chiamo le scomposte e poi facciamo verificare e vediamo un po' che cosa, da chi dipende. E chi ha la chiami, gli ho detto. È giusto, ma è gente imbecille, questa gente che vuole presa e ci va tutto al muro. A me una volta mi aveva detto, non vedo bene la televisione da quando hai messo le parabole. Ha detto, ma sei scemo, ha detto, perché le parabole in trasmissione sono in ricezione. Ho fatto, ma vai, infatti, fate una cagata, gli ho detto, e finisce. Chissà perché, forse è una coincidenza. Ha detto, sarà una coincidenza, a chi le parabole sono in ricezione non sono in trasmissione. Il bello Robè, anzi il bello, è il brutto. E poi da lui stesso mi ha detto che c'è uno a fianco a lui, a 1,20 m d'antenna, misurata col metro, che non ha nessun problema. Gli ha detto scusa, se disturba te, disturba anche all'altro, cosa c'entra? Se sono io, no? Se dovessi essere io a disturbare, se disturba te, disturba anche all'altro. E tu guarda che quello lì è un problema del tuo decoder, no, che è nuovo e di quelli integrati nella televisione, sta appunto per quello. Quello è qualche problema del decoder, sicuramente si blocca, lo faceva anche a me un decoder o robe. E poi dove siete voi? Tutto pieno di punti ripetitori di quelli cellulari. C'è la stazione, vabbè, quella della RAI non la nominiamo neanche perché sono apparati super professionali che lavora su grosso e potente, non so se c'ha 5.000 watt con l'impianto d'antenna, adesso non mi ricordo esattamente, o 2.500 o 5.000, adesso non me lo ricordo. Quell'antenna grande che si vede, non so se l'hai vista la cruca, però neanche a pensarci che disturba una cosa del genere perché lavora su frequenze molto basse HF, per cui le armoniche saranno microwatt, neanche a parlare. Lui deve stare attento a tutti gli amplificatori di antenna che mettono adesso, che ti amplificano tutta la mondezza. Per dire, se c'è il ponte dei cellulari vicino, quelli sì che ti possono disturbare, se c'è un cavo che non è schermato bene, se ci metti l'amplificatore, eccetera, eccetera, avvini, i disturbi entrano. Stavo facendo capire, poi da dove però ho chiamato anche a Luigi, ho avvertito, guarda, c'è questo scemo che sta rompendo, ho detto, magari c'è neanche da me è venuto, e gli ho detto, vedi, ho detto, questo è convinto, ha visto le antenne, siccome con l'imbecille del tecnico del televisore ha detto che sono in direzione, si è lavato le mani, gli ha detto, dice che può essere un disturbo delle antenne, vabbè, chiama scomposto e poi fai, vediamo un po', e alla fine non è che ognuno che viene ti deve abbassare la testa, no, facciano quello che vogliono, Robè. Guarda, stamattina ho trovato proprio una persona che si occupa di queste cose e oltre, guarda caso, stavo parlando proprio di questa cosa così. E vabbè, ma ok, riprendi Falchè. L'ignoranza della gente, purtroppo è l'ignoranza della gente. L'altro giorno, quando avevo non questa antenna, l'altra antenna, quel bastone, me ne è venuta questa, mi entri nel telefono, ti sento parlare al telefono, questa signora, si cambia il telefono e non mi rompa le scatole. Non so fare che bella, ti ha puttata, poi ti butto anche a casa. Ti ho detto, ma questo come si è permesso a fare? Cioè, caro, tu, cioè, ci vuole mi suonare a testa, andare a casa di un altro, a bussarle, a dirle queste cose. Cioè, proprio non c'è limite la negligenza umana, Robè. Ok, riprendi, Robè. E adesso sei andato Luca, ci sei? Sì, no, sto facendo una prova al computer, che c'è un programma, non qua. Che casino, e vabbè, che ci vogliamo fare? Poi la domenica un po' strana oggi, stavate stava bene, bella, poi cambiata in brutto. Vabbè. Si deve fare. Sai che Mario ci ha piazzato l'antenna? Ho sentito poco fa di sfuggita. Vabbè, chi ci aveva ragione, tornando al discorso di Mario. Tu avevi ragione. E lì la signor Pompugno, l'ha confermato poco fa, io l'ho sentito poco prima di entrare, di parlare con lui, di salutarlo. Ha detto, me l'ha detto Roberto Quadrato che non stava uscendo bene. Tutti i casi mi ha ripigliato un bambasco. Dice, pur mi sono accorto che c'avevo l'antenna piegata in due. Quando ragioni tu io ho detto che ti tendevo a inserire, lasciamo perdere. No, KK, quando l'hai detto tu era confermata al 100%, perché dopo lui si è accorto che l'antenna era piegata, confermato comunque. Ma ci mancherà, no, perché mi ha trattato, mi ha detto che io dico troppe cose, chi mi devo fare a farci me, chi tratta, ho detto vabbè, se le volete le cose, le osservazioni, però sono arrangiati. Io ho visto che il segnale di Mario era molto ma molto più basso del normale, e gli ho detto quello lì. Poi, se vi volete gridi, come l'ho detto a Luca, ti ricordi Luca l'altra volta, e a Gianni, qualcuno le accetta le osservazioni, e non sono critiche tra l'altro, sono osservazioni, e altri purtroppo hanno carattere permaloso, dai, non entriamo in merito poi. Caparoso, vediamo, se tu hai detto la tua versione, invece per loro che non l'hanno appresa. Quando si è verificato che si è piegata l'antenna, è tutto qua. E cosa Luca tu? Che cosa non me l'ho capito? Quando anche tu stavi uscendo male, ti ricordi che tu ti dicono, no, stai andando bene, qua è tutto a posto, hai detto guarda che Luca non è quello il segnale, Salvatore poi aveva confermato la ottava, e tutti non è vero, non è possibile, c'è problemi tu, hai detto, vabbè faccio problemi io, come ti quando stavo uscendo basso Gianni, glielo ho detto e tutti quanti tutto a posto, quelli vicini non se ne accorgono, ma quando sei un po' lontano te ne accorgi, idem di Mario, io me ne sono accorto, avevo perso 15 punti e non sono pochi, E Antonella invece aveva detto, no, no, tutto a posto, stai uscendo perfettamente, stai dicendo fessilia. Ha detto, vabbè, fai così allora. E dice, infatti, ma anche io me ne sono reso conto dallo smittere. Capito, infatti vedevo c'era qualcosa che non andava. Tutto qua. E poi ogni tanto avevo Fab, Fox, mi prendeva l'antenna lassù. A seconda del vento, o magari della temperatura, o c'è magari troppa umidità, non lo so, l'ho fatto altre volte. Questa è la saldatura malfatta, a te ti sembra saldato, ma all'interno è solo incollato, come scalda un pochettino, non lo so, può esserci anche l'umidità, come hai detto tu, e può creare quei scompizi. Comunque i cavi meno si toccano, meglio lasciare sempre attaccati, non tocca mai nulla, una volta che vanno bene, stacca e attacca, alla fine qualche problemino c'è sempre. Ok, e non facciamo diciamo i filosofi adesso, comunque avanti Salvatore. Come sta uscendo adesso Robe e Mario, bene? Ho sentito di sfuggita il segnale di prima, diciamo, grosse differenze non ne ho sentito da prima. Poi loro non lo so da quant'è la parte mia, più o meno lo stesso segnale. Sicuramente avete preso il vecchio segnale, anzi, dovrebbe uscire meglio perché l'antenna è nuova, insomma, se hanno fatto tutto bene, dovrebbe uscire anche leggermente meglio, là. No, ma poi Salvatore, il discorso è, scusa Robe se trovo, il discorso che c'è la turbo dovrebbe uscire anche di più forte, diciamo, invece il segnale è sempre lo stesso. Vabbè, infatti non è che si possa vedere queste piccole differenze, ripeto, sulla lunga distanza magari li puoi vedere, ma così vicini non ce la facciamo a vederli. Poi anche la differenza fra quella luce aveva la Mantova 1 mi sembra, o la 5 aveva, adesso non ricordo, fra la 1, la 5 e la turbo non è che ci sia questa grossa differenza, Kappa. Questo già io sono più o meno la stessa cosa, il guadagno è quasi identico. L'hanno fatta solo per questioni di mercato. Il mercato ti chiedeva un prodotto nuovo, loro gli hanno messo questo cacchio, l'hanno chiamata turbo, gli hanno messo questi radialini in più, e basta, più corti, ma la resa più o meno uguale. Conosco gente che aveva la 1 e la 5, piantate una a fianco all'altro, provate con lo stesso apparato e ricevevano lo stesso preciso identico modo. Ed è giusto che sia così. Solo forse a lunghissime distanze, con degli strumenti di precisione, forse, ma nemmeno riesce a tirare fuori qualche differenza di valore, ma in distanze normali non esiste la probabilità di dire che una sta meglio o peggio dell'altra, a parità di altezza di tutto. Kappa. Poi naturalmente mai adesso dobbiamo fare le prove con gli stessi apparati che aveva prima, non prendere adesso usare un apparato se puoi usare un altro apparato che magari tira di più o di meno, non si può stabilire quello. Io ho visto che da parte mia il segnale è più o meno stabile come la prima. E infatti si conferma. Ma non lo so, Luca, cosa dici? Che cosa? Di Mario, com'è il segnale di Mario? Sempre uguale. Poco fa infatti stavo sentendo, quando voi state parlando, facendo le prove, io ero al computer, era acceso, da me passava Gianni, era più forte Mario rispetto a Gianni, ho sentito anche a Falchetto la stessa cosa, poi non so Luca, tra te, vabbè penso che passi Mario lo stesso, tra Mario e Gianni, chi passa? Beh, e io? Forse Gianni è più forte, poco più forte Gianni, Mario poco. Ma più vicino, ah, no, sai, ma tutti, Mario è più lontano di Gianni, no, adesso stavo confondendo io, perché lui rimane giù, adesso no, forse può passare Gianni, dai. Però da parte mia passa Mario, considerando forse c'ha più apertura, non lo so. E poi non è molto in alto mio Mario, anzi, risulta quasi nel fosso mio, il tuo Robè. Infatti quello che mi meraviglia che Mario cazzo non è, rispetto a Gianni è molto più in alto, diciamo, io l'ho vista da fuori l'antenna sua, c'è una bellissima posizione, Mario forse perché non ha ostacoli davanti, c'ha quella piattaforma, diciamo, dove c'è la rotatoria lì, tutto aperto, probabilmente non c'è assorbimento di onda e riesce a andare, perché Mario si fa sentire e ascolta Buru molto lontano, sicuramente questa secondo me è una delle migliori stazioni a livello di trasmissione e di ricezione. Eppure Gianni è appunto uno dei punti più alti di Sassari quello. Infatti però qua passa Mario, poi non so se uno c'ha più potenza o meno potenza, non lo so, il segnale di Mario è più forte. Ma vabbè, non parliamo di Luca, che Luca era battuto da quella zona lì, non ce n'è per nessuno. Sì, no, ma davvero, il segnale è quasi uguale. Quante lui ha? Ma già ci pensi se piazzava la direttiva a questo imbecille cosa? Magari pensava che era quella lì, Robe. sta a lasciare, dove non ti spaventare più di tanto, magari io quando parlo con certa gente neanche che a dargli importanza, se non gli dai troppa importanza, dici vabbè, faccia quello che deve fare, io da parte mia, tu gli potevi dire facciamo una cosa, adesso io sono qua, andiamo, gli faccio vedere gli apparati, aspetta e poi andiamo a casa sua, vediamo se c'è di subo, proprio per togliere la testa all'ora e vediamo un po' chi è. E dice, ma dice che c'aveva il disturbo, lui è venuto per quello. E gli ha detto, guarda che io sono appena arrivato, e non ho neanche acceso, che sto appena entrando a casa. E poi, ma lui gli hanno messo in testa, e vabbè, tutti i dini. Sì, ma il mare è sceso, ci sei, Robè, era bella oggi. Poi il mare oggi era spettacolare, una tavola, bellissima, una giornata spettacolare, però non sovrerò solo il passaggio perché sono quei bambini a giocare, però visto il mare era bellissimo, proprio la giornata si stava anche bene. Perché? Hai registrato il break? Vabbè, facciamo entrare, avanti chi è? Ciao Maria, buonasera. Quattro ore, Robè, fatti fare la cortesia. E ho visto che non stavo uscendo bene poco fa. Stavo controllando la vita. Che cacchio, Giovanni, se non esci bene tu. Qua fondo scala, te quanto? Più di 9,60, radio super 5. Tutto ok, da parte mia nessun disturbo di nessun genere. Ok, chiedi conferma a quelli più lontani, vediamo a Salvatore. Avanti Salvatore. Capa, buonasera Giovanni, fai un passaggio, ti devo controllo qua all'ottava. Ok, 1, 2, 3, avanti Salvatore. Capo, a fondo scala, me l'hai mandato giù a fondo lo smitter del K, va benissimo, dai. Ok, mi ringrazio, tolgo il disturbo, stavo provando questo microfono, grazie ancora e buon proseguimento, buonasera al circolare a tutti. Ciao Giovanni, buonasera, ben ascoltato. Anche tu ci sei qualche, scusate, non ho fatto ascolto, buonasera anche a te. Okay. Sera Giovanni, tutto Roger, tutto fondo scala, tutto Roger. Ok, grazie Falche, riprendete, dai, buon proseguimento di questo. Papà, come hai sentito Gio Maria, c'era anche Luca, va bene, non c'è problema, dai. Avanti Luca e riprendi tu, ma forse si è allontanato, vai Salvatore. Papà, sì, cosa devo dire, ieri, sai che ho acceso un po', ma tu non c'eri in radio ieri, Roba, fa interrogativo? No, io avevo guardato la partita, sono stato abbastanza tardi e poi ho visto la partita, e oggi ho visto anche il Milan, che schifo, mamma mia, ma hai visto come ho preso il gol? Il gol l'hanno preso da stupidi, vabbè, ma non c'ha tutti i giocatori rotti, cazzo, ha il nuovo patto, però al secondo tempo si meritava qualcosa in più, io penso che un po' di fortuna gli è mancata, ha avuto fortuna al primo tempo, stava a prendere 2-0, ma al secondo tempo si è impegnata, ma se tu hai la squadra dei tuoi, Nesta, Morera, gli togli Beckham, gli togli a patto, gli togli chi manca poi, l'attaccante Moriello, troppe assenze c'ha. Ma la difesa era uno scandalo, cacchio, quel gol, quando ha preso il gol io pensavo che si fossero fermati perché c'era il portiere in terra, hai visto come è una cosa vergognosa, cioè una squadra di Serie A prendere un gol del genere, guarda, se perde lo scudetto è per colpa del Milan, non è per colpa dell'Inter, è per colpa del Milan, perché oggi non aveva approfitto, adesso domenica va a Parma, anzi mercoledì va a Parma, voglio vedere cosa è in Milan, con quella difesa è meglio che non ci vada neanche, è una vagonia, cioè è inutile che tu crei, loro fanno due tiri e ti fanno due gol, anzi ne arriva uno perché gli altri sono andati anche bene. Lasciamo perdere. Io mi auguro solo che ci siano tutti i giocatori validi quando andiamo a Cagliari, mi salvato, se no guai, cacchio, non vanno nemmeno a Marco. Vanno a vedere quattro bollacciotti, io voglio andare a vedere Ronaldinho e tutti quegli altri. Vabbè. E avanti, fate. Stavo dicendo, scusate, cosa ha fatto il Milan? Ha perso? 1-1 ha fatto, ma è andata a Burumea al primo tempo, al secondo tempo magari meritava qualcosina di più, ma cacchio era una vergogna, sembrava una squadra di chi che non ha mai giocato a pallone, cioè hanno preso un gol, rimasto fermo il giocatore, c'è entrato questo pulito qui, ha segnato, c'era il portiere in terra, un altro Abbiati oggi, mi hai visto Abbiati di Salvatore? Sì, ma si dicevano che era, sembravano le comiche. No, ma aspetta, a Cagliari dovrebbe rientrare un po' di gente, e poi il biglietto non vale solo per vedere Ronaldinho, ma è solo quello lì. A proposito, mi devi far avere quella questione, quanti siete? Avete già il numero, ce l'avete? Ma io e mia figlia siamo sicuri, adesso non so se viene mia moglie, ma lì mi ha detto se voi venite vi rimanete fuori e vi aspettate in macchina. Sì, esatto. Dai, ma vedete quei documenti mi servono, Roberto. Termino di dire di mia figlia, già ce l'abbiamo portata in mano. Mia moglie non lo so, ma preferisco male non farle andare con l'altra piccolina, non è pizzina da rega allo stadio quella. Meglio tenerla rinchiusa in qualche gabbietta, se no se la fa già la grande. Non la portare, se no si bizzicciano, guarda, stanno diventando tutti e due, poi quella piccolina è mezzo gelosetta della grande, era questa già convinta perché andavamo io lì da sole, ma adesso non lo so, adesso domani ti dico cosa ha deciso mia moglie, dai, vediamo un po'. E quanti che le fotocopie mi servono, Robert? Oppure se non ce la fai a scendere, scanalizzamele e me le mandi via email. Ma dici tu che email non mi fido, non so bene, vabbè, non mi fido, al limite ci posso provare. No, anzi no, scanalizzare come? Cacchio, non ce l'ho uno scanner. Allora, forse sì, il computer ce l'ha e la trampata ci fosse. Vabbè, faccio prima se andate giù che così siamo sicuri. Vabbè. Oppure troviamo il modo di farmela avere. Sì, così domani sera, perché io sono convinto che un sacco di gente ci va. Comunque, ho avuto oggi sabato una notizia che dice che il Cagliari del prossimo anno dovrebbe giocare tutto il campionato in casa, però non al Cagliari ma a Tempio, perché c'è che rifanno devono rifare il Santeria. E che te l'hai detto questo? Di Tempio, lo stava dicendo, gli stavo parlando e mi ha detto, se tutto va bene ci guardiamo il Cagliari qua il prossimo anno. Magari per lui è anche più comodo, ma Cellino aveva un'idea, l'hanno mezza bloccata, di fare uno stadio a metà strada nella zona di Oristano, di lì, con la pianura di lì, e fare uno stadio dai 20.000-25.000 posti, in modo che potessero venire anche tifosi dal, non tifosi di Lugano, che non me la putti nuda, a me mi piacciono vedere le squadre di Serie A, i campioni di Serie A, anche se mi fa piacere, quante volte se vince il Cagliari, però non sono cagliaritano assolutamente, non me la putti nuda. Allora ti fa che riprendi e dici la tua. Si conferma, in effetti è così. No, una cosa c'è da dire, senza offesa, ma siamo sardi, le squadre sarde bisogna farle. Sicuramente se fosse stata anche cosa di Bocciulli la Morese in Serie A avresti fatto per la squadra sarda, però non me l'ha fatto nulla dell'Ugaria, a me interessa che il Cagliari rimanga in Serie A per un domani, come succederà se Dio vuole, all'altro tra due sabati andremo a vederci una squadra in Serie A e vedere dei fuori classe, tipo Ronaldinho, anche se non sono milanista, però mi piace vedere, sono minimo 20 anni, che non, 20 di più, che non vado a vedermi una squadra di Serie A, l'ultima volta ho visto mi pare la Fiorentina, prima ancora il Milan, però voglio vedere i giocatori ai tempi lucidi, erano già troppo vecchi quelli lì, quando giocava a Dio giocava ancora, no di più di 20, 25, sarà stato dopo i mondiali sono andato. Gabba dell'olio, sì dai, io faccio un attimo di bianco e se non rientro ce la riascoltiamo nel prossimo. Sabatone, ciao anche a Roberto, dai, state migliori. Ehi, mi hai sentito qualche quando vuoi, già lo sai, non vi sono problemi. Se basta che tu schiacci l'interruttore dell'accensione, io vedo che ci sei tu. Aspettavo alla portata, che magari il rumore di casa tua. Va bene, dai. Ciao ciao. Facciamo qualche buon QRT se stanno in QRT e buona carica. Ok, vabbè, siamo rimasti nelle soli, Luca ci sei? Forse siamo rimasti soli, Robert. Vuoi fare quelle prove, Robert? Andiamo con la solita, ti ricordi? Chiama, facciamo una chiamata per Luca, o se che magari non ha. Luca, attenzione Luca, se ci sei. Vabbè, alla solita, ok?